Bentrovati a tutti, spiriti erranti. Quello che state ascoltando è Epoca, il podcast, e io sono il Master. Qui con me ci sono Shiloh, Lisbeth, Morwen e Angmar, e sono ansioso di annunciarvi il primo episodio della serie di Assemblea. Ti ho scritto Praietti. Praietti. Riassunto. Ma l'hai fatto ora? Adesso lo rifate più dettagliato perché sto registrando. No. Perché non fanno un cazzo? Indicò quella che aveva il quadernino con tutto scritto. Io controllo. No. Allora, siamo rimasti a quando ci hanno... Bisogna andare a trovare Boti. Dunque, siamo arrivati nella città di Escos. Lì abbiamo, sotto la guida di Warash, abbiamo trovato un colosseo gestito dalla mano a tre dita, l'ultima grande famiglia degli orchi. Siamo riusciti, dopo due combattimenti, a guadagnare la fiducia del nostro caro... Il nostro... di questa tribù. Ci ha medicati e ci ha detto che, dato che avevamo fatto perdere a lui un botto di soldi, dovevamo fare qualcosa per lui. E questa cosa perdere un cinghiale. E questa cosa era 30 anni di vita. E questa cosa era l'andare nelle segrete della arena, nonché il tempio, e recuperare un ciclope di circa 15 metri. Siamo andati giù. Ci ha aperto la porta, siamo scesi, siamo giunti. Dopo vari passi rilievi che rivelavano l'antica storia di questo mondo, siamo arrivati in una grossa sala dove erano presenti un grosso ciclope di circa 30 metri, una ciclopa per la precisione, non facciamo sessismo. La ciclopa. E i suoi piccoli, per modo di dire, anche piccoli, più piccolo era di 7-8 metri. Con delle cose mirabolanti siamo riusciti a non venire digrumati dopo 10 secondi. In pratica abbiamo corso. Sì. E molto veloce. Siamo arrivati in un punto sicuro, tra virgolette, dietro una porta. Ed è lì che Lisbeth è riuscita, grazie al suo potentissimo libro di ciò che dovrebbe avvenire, a incrinare l'incantesimo del bibliotecario. Chi è il bibliotecario? Il bibliotecario non è altro che il guardiano della conoscenza dei cavalieri. Che ha un nome? Che si chiama bibliotecario. No. Morwen. Siria si chiama. Siria. Non si chiama Silia. Silia. Silia. Silia o Zilia? Ci siamo. Nome. Silia. Silia, ok. Ok, fammi tornare il mio radio voice. Siamo arrivati dove abbiamo incontrato il bibliotecario, nonché Silia, prodotto dell'incantesimo di Evan, che ci ha molto mestamente... No! Sì. No, non è prodotto l'incantesimo di Evan. Se ve l'ho detto ho sbagliato. Ok, ecco. Allora non è più prodotto l'incantesimo di Claudio. No, però lui vi aveva detto che era stato prodotto da qualcuno? Sì, no, lui aveva detto che Evan aveva... Allora, vi dice che è stato prodotto da Von Kalt. Von Kalt. Von Kalt, il parone Von Kalt. Briar Von Kalt. Nessuno di voi sa che cavolo sia. Direi. No? Fino alle medie insieme. 400 anni. Siamo... stati mestamente cacciati a pedate nel culo da questo bibliotecario e abbiamo scoperto, grazie al nostro caro amico Warash, che nel frattempo sta riprendendo completamente la sua memoria, grazie a Lisbeth, che sì. Serve una chiave prodotta dal mastro di chiavi, guarda un po', per aprire la porta della biblioteca e quindi bypassare l'incantesimo di Von Kalden. Cult, ok, cult, io come con i nomi cult. Masta io, però è scritto con la A. Ok, va bene. Cult con la A. E... Morwen, mi passi una domanda? Ma sta, scusa, una domanda. Non è che hai intenzione di farmi 15 ore di registrazione? Sì, tipo 15 giga? Assolutamente sì. Ah, poi me li mandi, dai. Come cazzo te li mando? Dai, me li sono chiavetti. Ah. Dai, settimana prossima mi attrezzo il microfono decente. Siamo usciti dal sotterraneo senza passare dagli occhi. Abbiamo... non sapevamo dove andare, abbiamo rintracciato il discepolo di Osaka, che abbiamo scoperto essere il maestro di chiavi, nonché Boti. Dopo una roccambolesca avventura nella quale abbiamo frecciato... Roccambolesca! Aspetta, ne vuoi i termini della radio oppure ti parlo con la maiala di tua madre? Decido. Siamo arrivati Ma te devi parlare naturale. Ma non puoi parlare naturale in radio. Guardate, non bestemmiare. Poi. Quello è tuo, è mio. È il tuo problema, è il mio. È bellissimo. Se no, YouTube mette il copyright. Di Mosconi. Cioè, sulle bestemmie. Di Mosconi. beh. Abbiamo invece incontrato la moglie di Bodhi, nonché Lirie. Birie. Tizio. L'ho detto tizio. Marilyn, grazie. E, no. Che ci ha detto che Bodhi era... Bodhi. Sì, Bodhi. Bodhi. Era partito per compiere le 5 imprese di Osaka. 8. Le 8 imprese di Osaka. Le 8 prove di Osaka. Le 8 prove di Osaka. Ci hai dato. Quello del suo maestro e che... Ok. Il suo maestro stesso non è riuscito a compiere. Le prove consistevano in... qui le ho un po' cambiate, quindi... Sapete che lui si è diretto... Allora, no, qui è importante. Probabilmente l'altra volta vi ho detto robe, ma l'ho cambiate perché erano veramente tremende. Okay. Lui si è diretto verso le montagne a sud, quindi qua. Okay. Se guardate, sta andando verso le montagne delle nubi, a sud di Escos. Va bene. Vabbè, la prima prova l'aveva fatta. La prima prova l'aveva già fatta. È la prova del fuoco, quindi probabilmente questa sarà o dell'aria o della terra. Esplodere le fucine. Fatto esplodere le fucine. Sì. Cioè, l'ha fatto esplodere. Sì, cioè, no, vabbè, lui in questo caso voi l'avete capito, e lui ha preso un po' per modo di dire due piccioni o una fava, nel senso che doveva fare la prova del fuoco, in più ha fatto saltare per aria metà dei suoi creditori. Giusto, giusto. E quindi cosa abbiamo fatto? Con una tamarrolesca avventura. Con le tute alari. Si poteva dire già, le tute alari. La moglie di Bodhi, nonché Marilyn. Marilyn, che io conosco molto bene, sì, ci ha consegnato dei prototipi. Sì, vi ha detto che lui ha fatto tutto questo puttanaio per dei motivi. Lui cosa fa? Si è indebitato per avere per costruire dai nani, esatto, per costruire questa Amber roccambolesca. Mi si è fissato il termine nel cervello. Mezzo volante. Amber. Vuol dire braccio. Ambra. Vuol dire braccio. Un'ambra volante. Amber vuol dire braccio. Amber scritto con la E o con la A? Con lei. La E. Okay. Con la A? Ok. Cosa? Con la A vuol dire ambra, con la E vuol dire... Va bene. E con la E. Perché... L'inglese non esiste. Ci ha consegnato gli ex prototipi di questo Ember che, tradotte in termini odierni, sono semplicemente le meravigliose tute alari, molto steampunk. Esatto, molto steampunk. E l'altra cosa che vi ha detto la Marilyn è che lui, cioè non è che lui è sempre stato appassionato di volo. Sì, di garbavo. E che ne ha costruiti anche per i nani di questi affari. Nonché le ha probabilmente perfezionato le navi volanti. Che lui... Insieme alle ferramosche. Sì, c'è anche la ferromosca. Io ho staccato la mitragliatrice e me la sono messa in tasca. In tasca. No, non esiste la mitragliatrice, ho appena fatto la lista delle armi. Sopra c'è il cannone. Vabbè. Nel caso le prendo, non me le ricordo nemmeno mezzo. Va bene. E nulla, stiamo decidendo se rinunciare alla legge della fisica che ci dice che non possiamo volare. Io posso, non puoi. Io non posso volare. Cioè la leggenda non si può andare oltre i 50 corvi orari. Lui è lì, aspettare. Io potevo. E quindi nulla, siamo io ora posso. Sì, vi è sta... lei vi ha detto che vi darà tutto l'aiuto possibile. Certo. Ovviamente avete appena accettato a salvare suo marito da una morte, una pratico suicidio. Un'altra cosa che vi ha detto è che il suo maestro è morto facendo queste prove. Sì, io l'ho già detto. Mm-hmm. Tra l'altro alla quinta pensione ci ho dato settima prima. No, lui è morto dopo la quinta, sì, ci avevi dato, vedi? Come ma è morto facendo le prove o è morto tipo mi sono preso morto un raffreddore? No, è morto facendo la quinta prova. Ok. E, tra l'altro vi ha detto per quello ne sa lei, queste probabilmente risponderanno a degli elementi, agli 8 elementi del cosmo. Come detto, probabilmente fuoco era l'esplosione delle ciuffine, e che se volete segnarvi dovrebbero essere montagna in ordine sparso, montagna probabilmente la montagna fulmine, sì. Questo mi piace. Cielo, me ne manca uno, ma va bene. Lago, ne manca metà, va bene. Vabbè, sapete queste. Sapete queste. Va bene. Niente, adesso ci sta spiegando come funzionano queste roccambolesche Ferrari. Va bene, siete lì, avete avuto comunque un po' di tempo. Ma tra l'altro avete visto che lui effettivamente nel suo laboratorio ha anche un laboratorio apposito in cui fa le chiavi. Cioè lui è comunque il mastro di chiavi effettivamente. Cioè non è che c'è solo il manda delle chiavi. Esatto. E in questo momento siete lì. Lei vi ha appena mostrato questi prototipi. Ce ne sono di svariati tipi. Ce ne sono anche più di quelli che avete visto. Però quelli appunto vi consiglia lei, vi dice, sono i più leggeri e i più veloci, che sono anche più semplici da pilotare. Un'altra cosa che ve l'ha stata detta importante era che appunto lui si era indebitato non solo per costruirli, ma era stato costretto a pagare, cioè a avere dai nani il combustibile. Ah, giusto. Che sono semplicemente delle rune del fuoco. Ah, okay. Che sono una cosa rarissima. Rune del fuoco. Esatto. E voi vedete tutte queste, praticamente, ovviamente, immaginatevele come se fossero dei vestiti da mettersi addosso, fatte di qualcosa di elastico, non capite bene che materiale possa essere. E sulla schiena hanno praticamente un grosso globo con delle connessioni palesemente un misto tra magiche e tecnologiche. Tra l'altro, se passasse un inquisitore da questo posto, lui fuoco, però probabilmente lui gode della protezione della Legio Ferrata. E questo potrebbe spiegarvi perché non abbiano appunto bruciato la sua intera vita e la sua anima, e i suoi figli discendenti, quello. E quindi niente, ve le mettete, vi sentite un po' idioti perché sono veramente brutte da mettersi addosso, sono tipo delle specie di impermeabili orrendi, sono tutte di colore diverso, tra l'altro di colori sgargianti. Olio rosa. Sì, io celeste. Vabbè, la prendi azzurra. E la prendi celeste. Domanda, non avevano anche tipo dei cappucci nel quale io non posso far entrare le corna, vero? No, c'hanno il cappuccio orrendo, tipo da Kenway, hai presente i cappucci? Sì, cioè, guardavi, no, sono proprio brutte. Se io lo strappo succede qualcosa. Si destabilizza. No, tardi. No, ti dice, no, in realtà te lo aggiusta lei. Ah, oh, grazie. Te lo aggiusta lei, ci fa proprio i buchi cuciti a macchina. Tra i vari 7000 attrezzi che c'ha anche la macchina da cucire, no? Effettivamente sì, la pressa a carbonio e sì. il crociuolo girerà a fissione nucleare. C'ha la macchina. No, tanto cosa notate è che in questo laboratorio non è che c'è una casa, cioè c'è il letto in cui sopra sono appoggiate robe. Da una parte c'è la cucina, in cui accanto c'è la sega a disco. Vedete, è tutto un laboratorio. Lo so anche per affettare il salame. La sfrigliatrice per sbucciare le mele e via. Fucina per cuocere le frutte. Appunto. Piglia povero. No, vedi lei niente, si mette lì, te lo fa e ve lo aggiusta, insomma. Va bene. Tra l'altro vi dice anche che questi affari possono portare più del peso del vostro corpo, quindi potete portarvi un po' quello che cazzo volete. Va bene. Io ho un elmo. Elmo? Elmo, quello dei Muppet. Muppet. Senza S, voi, no. È un Muppet. Un Muppet. No, va bene. Cosa fa? Proviamo. Fare cosa? Boh, io mi cago un po' addosso. 12, no, vabbè. Una bella cagata. La reggo più o meno. Ma non dovremmo tipo salire in un posto più alto? No, non lo so come. Basta, dice, lei vi fa, no, non preoccupatevi, basta che ci sia un po' di vento e potete sollevarvi direttamente da terra. Ovviamente se siete in un posto più alto le sfrutterete meglio. Vedi, sul sì, tetto. Ma per salire ok, ce l'hai spiegato, ma per scendere? Vorresti andare. Sai nuotare? Sì, ti fa. E anche bene. Ecco, volare è simile. Sì. Solo che vai più veloce. No, non devi muoverti. Sì, nessuno arriva. Beh, non ti resta. No, vedi lei ti fa. Non so spiegarti, davvero. Non ti resta che provare. Usciamo fuori, vi farò vedere. Ok. Anzi, andiamo. Ancora meglio, scusate. Andiamo sul tetto. Giusto. Vi porta al piano di sopra. Vedete, al piano di sopra ci sono solo attrezzi volanti, cioè sembra che se il piano di sotto fosse fatto sono per immaginare una chiave volante con le ali. Sì, c'è sicuramente che ci si tipo il ripote, esatto. Che cosa, mi boccino d'oro di merda, oddio, c'è sta gironzolando lì per lì, la prendo. No, vi dicevo che il piano di sotto ci sono dalle cose più varie, cioè quindi sia dalle anche dalle armi da fuoco, gli attrezzi di qualunque tipo. Tanto sembra. Potreste farmi potreste farmi un tiro per. Ma no, ve lo racconterei. Vi dice: in realtà lui è un geniale inventore. È anche uno che non finisce mai un cazzo nella vita. Come ogni geniale inventore. Cioè, è pieno di roba non finita. Lui, tra l'altro, è pieno di commissioni, di lavori non finiti. Una roba del genere. La domanda mi sorge spontanea: come fate a campare? Beh, io finisco le cose che non finisce lui, giusto. E le andiamo. Okay. Normalmente. Anche se in realtà poi non finisce anche lui. Finisce. Dicevo, appunto, salite al piano di sopra, vedete che sopra sembra essere... Avete presente i... Non potete averlo presente. Un laboratorio Leonardo da Vinci. Gli schizzi di Leonardo da Vinci. Sì. Con tutte le macchine, che sono tutte... Cioè, tutto quel posto lì è fatto in quel modo lì. Quindi dentro c'è pieno di attrezzi, vele, disegni sulle pareti di uccelli, di studi sulle ali, figa. Tutte le cose del genere. Nessuno faccia la battuta con gli uccelli, per favore. Il mio non ha le ali! Vai, andiamo avanti. Niente, salite, vedete tutto questo e c'è un'altra scala che vi porta sul tetto, che è piano, ovviamente. È proprio un tetto piatto, c'è proprio il terrazzo sopra. Qui li vedete, ci sono altre robe, attrezzi messi vari. Le cose non finite andate male. No, in realtà, vedete, no, invece guarda, in realtà lì sopra probabilmente c'è quelle finite meglio. Che sono lì per essere testate, fondamentalmente. Quindi siete sul tetto e lei fa, c'è anche un buon vento oggi, effettivamente. Effettivamente c'è, tra l'altro è mezzogiorno in questo momento, c'è un bel sole, sole... Come quello c'è stato oggi, quindi primaverile, caldo, però c'è questo venticello che ancora porta l'aria dell'inverno fredda che giunge dal nord, che ci sta da Dio. E ci sta anche lentamente uccidendo, poiché a nord c'è la guerra. Sì. Godiamoci la primavera, ci sono le primule sul balcone, nel senso. Sì, sta arrivando la polis, ma vabbè, nel senso. Dovevate il personaggio pessimista? Eccomi. E fa... C'è un buon vento oggi, provatele. Mettetevi così, come me, se ne è messa una anche lei. E che lei si mette praticamente di fianco a voi, siete praticamente in fila. Dice, adesso apritele in questo modo. E lei quando fa così, si gonfia e si solleva un pochino da terra. E adesso dovete solo bilanciarvi con il vostro peso. Se vi sporgerete in avanti andrete più veloce e se invece opporrete resistenza andrete più lento. E se le chiudo improvvisamente cado? Cadi. Lei la chiude e atterra lì. Sì, è facile. Vabbè, lo fa decentemente. No, sembra che lei tra l'altro sta cosa la sappia usare bene. A volte la uso per le consegne. Vai, sì, fammi un tiro. E non sei stata ancora bruciata. Ma no, in questa città siamo protetti. 17. Stiamo scendendo addosso. No, no, te effettivamente ti sembra proprio la sensazione come di esserti tuffato. Pensate quando ti tuffi e scorri nell'acqua. Sì. Ecco, è la stessa sensazione, solo adesso stai facendo resistenza per rallentare. Tra l'altro vedete che aprendosi queste cose si illuminano. Si illuminano di rosso. Giusto per non farsi vedere. No, no, non tanto. Però vedete che dentro il tessuto ci sono come delle venature di rosso pulsante che... È la runa del fuoco, sì. Esattamente. Voi tra l'altro vedete sulle sue spalle la runa che diventa rossa incandescente e te senti anche un discreto calore alla schiena. Cioè non è che brucia, però si sente che... Tanto fa anche un rumore tipo... Sì, hai un po' sono attaccato con baroncina. Sono un po' è scosto, è diventato un cratere. Ci provo anch'io. Beh, in realtà lei vi dice: sì, effettivamente vi ha detto il procedimento per utilizzare queste rune è pericolosissimo. Probabilmente per far saltare in aria le fucine. Beh, lui ne ha fatte saltare un paio. Boh. Ti pareva. Lei, tra l'altro, sembra essere. Ah, tra l'altro, body in alto elfo. Anche lui. Sì. E lei, notate che da quando. Le avete detto che salverete, cioè che andrete a salvare suo marito. Lei è diventata completamente solare, cioè dall'essere completamente triste è passata ad essere felicissima di questa cosa ed è felicissima di insegnarvi a volare praticamente. Figo. Va aggiunto qualcosa di modificatore? No, perché potete utilizzare, se avete imparare, come se, imparare. No, come si dice? Non mi ricordo. Apprendere. Più. Apprendere e potete imparare e volare. Che dovrò imparare, tra l'altro. E 14. Anche te, ti tiri su e ti trovi accanto. Siete a una decina di metri dal tetto, diciamo. Se sali su. Come si fa a salire ancora? Devi opporre più resistenza. Cioè, praticamente, se tu rimani ferma in questa posizione, vedi che ti stai tirando su in questo modo. Ok, quindi ci vuole un po' a salire. Lentamente. Ancora. Vabbè, io ci rimango e salgo ancora. Io sono un po' schifata, diciamo. Non schifata, ma non l'ho potuto fare di natura, mi fa un po' Te, no, vabbè, te effettivamente, no, a te non devi neanche tirare per fare questa cosa. Vabbè, per te è proprio istintivo, lo sai. Sì, lo faccio, però. Un po' innaturale. Fammi un tiro, dai. Roberto. Bella, come camminare con una protesi. Sì. Tipo. Per te senti che effettivamente fare questa cosa. Voi vedete che lei si solleva senza dire nulla, più in alto di voi. E notate anche che lei anticipa quello che vi avrebbe detto Marilyn. Che sto nome lo odio. Anch'io. Che chiudendosi verso l'alto potete salire, cioè potete utilizzare la propulsione di questo affare. Quindi volevo sapere quello. E stringendo le mani, cioè avete delle, praticamente avete delle maniglie in mano, se voi le stringete vi spingete come se aveste un propulsore dietro. La imito subito e muoio male, guarda. Sale più in alto, però... Bello, c'è un attimo la scena strapoetica del fatto che voi vedete contro solo a lei e gli cade una lacrimina. Poino. L'avrei voluto fare con le mie. Così che precipita. Lei appunto... Dice, guardate come ha fatto lei, vedete? Stringete e avrete una propulsione da dietro, che è un doppio senso tremendo, ma lasciamo perdere. E si tira su anche lei. E si va anche noi. Dio, ho rischiato tre primo campanile. 15, ma no. Vabbè, sali. Stai vedendo dall'altro? 15, 16. Anche te? Perfetto, anche te sali senza problemi. State vedendo la città dall'alto. Sì. È un bello spettacolo, cioè soprattutto per voi non avete mai volato. Cioè, io non ho mai volato, quindi non lo so, ma deve essere una figata la fare. Cioè, non ho mai volato, nel senso, non ho mai volato io e basta. vedere la città dall'alto per voi, cioè, è un'emozione nuova. Quindi, di conseguenza. Qui siamo sul fatto che, che anche Elisabeth sta facendo tutto ciò senza farsi del male. Ce l'ho tipo attaccato. Il mare subito. Canguro qua. Oddio. No, vabbè. Immaginate di essere lassù in questo momento. Dice, lei tra l'altro vi fa: e adesso provate a sporgervi in avanti. In questo modo. Lei praticamente si mette in una situazione in cui sta praticamente planando. E in questo modo, vedete, lei inclinandosi riesce a muoversi nello spazio, nel senso che lei appunto essendosi messa orizzontale al terreno, sì, inclinandosi in avanti riesce a scendere e a spostarsi, si sposta di alcuni metri davanti a voi. Okay. E ci provo subito, è 14. Anche te riesci, non c'è problema, fammi un tiro di apprendere se ce l'hai, in realtà fatemelo tutti. Perché... Da apprendere se non ce l'avevi, ma in questo caso lo fate perché... No, e ma niente, 12. Ma tiriamo tutti insieme per favore. Vi devo dire la difficoltà è al 10. Perché c'è una che vi sta insegnando bene. 2. Dio, ma vabbè, hai ma fatto te... No, ma dai. No, dai, no. Non ci credo, dai. Ha 53. 53. Beh, me può prestare un po', ho fatto 2. Ma che scena. Contando che sapevi già volare, secondo me te a un certo punto ti rendi, cioè, proprio se non l'ascolti nemmeno più, ti chiudi un attimo, la vedi che sparire dietro la rocca. Beh, io mi cago in mano per quello, non imparo a volare. Hai volare con un più 2, secondo me, anche più 3, più 50. No, ma secondo me hai anche più di 4 a volare. Tieni, vai. Visto che mi piace un sacco di 4, più 4, tanto perché no, capito, fai non bastavano fare 2-20 di fila. Senti, a D&D mi sono morti 3 personaggi diversi. Ma D&D è normale, muoio la gente. Io la vedi che sparite, quanto hai fatto? 2. Te sei lì che sì, hai un po' capito, nel senso... Quanto hai fatto? Ti guardo così, ti formulo, io ti guardo. Facciamolo anche per Lisbeth. E 20, no, Lisbeth, attenzione, 25, anche lei sa volare. Grande. Ti segue, e diteglielo che ha un volare. Volare più? Più uno. Dio, la mia piantina. La mia piantina di Edera. Che cazzo esce l'Edera? Bello, ma non l'Edera che uscirebbe l'Edera. Nemmeno cosa? L'Edera no, amato che uscirebbe l'Edera. Non te lo domando. Mi piace l'Edera. Sono orribile. Ma no, si attacca a un petulante. Non mi ricordo se sono un petulante. Ho detto, pensavo che sono appena schiantato. No, ma non te lo vai, fatti avanti. C'è un tiro anche per lei che fa due. Che lei? No, lei in realtà è lì che tenta di spiegarti come fare proprio il tempo. Nel panico perché. Che io sono fatto per volare. Effettivamente, sì, vedi che non sei molto fatto per volare. Agmar. Vedete, questi affari. C'ho più abilità fisico che in tutta la mia vita. Che fa? Beh, sì, no, vabbè. Io inizio a fare delle stupide giochi. Vabbè. No, secondo me sì, Lisbeth viene da te e ti insegna a volare. Con un 18, dai, a volare anche per più uno, fanculo, regaliamo le abilità. Perché loro se non hanno la cosa là. O volare male più. Volare male. Volare scuro. Tipo le galline. Saltelli. Esattamente. Il mio futuro se non bevo dell'altra di qualcosa, lo sapete. Anche te comunque, effettivamente, essendo mezza viverna, sei un po'... Ti senti abbastanza a tuo agio anche te. Infatti, volevo fare delle stupidissime giochese e quasi schiantarmi in terra. Vabbè, guarda, in realtà hai fatto un buon tiro, secondo me. Fate un po' di... Avete presente quando, non lo so, non so se... Però avete appena imparato qualcosa di nuovo e siete lì che ci state perdendo tempo nel capirne ogni angolazione, ogni funzionamento. Mi sta bruciando l'anima. Ah. E secondo me... Sparire. Volete fare qualcosa di particolare? No. Acrobazia, ma se non ci fosse un domani. Sì, lo stai facendo. Io. Yeah! No, tra l'altro vedi, questi affari sembrano essere proprio fatti per fare le... Cioè, per essere completamente manovrabili. Cioè, con semplicità potete fare piruette, robe varie. Allora, faccio. Arrivo un picchiata, recupero. Arrivo in cima, mentre vado su, inizio a roteare su me stessa. Basta. vedi, e questi affari hanno un punto di stallo. No. Sì, lo puoi fare. Ah, certezza. Ah, aspetta, se ti rovesci non funzionano più. Appunto, vado se ti rovesci per qualche secondo, mi rigiro, prendi 60 e torno normale. Esatto. Moro era così. Hai finito. Io le voglio vedere. No, tra l'altro vedete un'altra cosa, se voi mantenete aperte le gambe e chiudete le braccia, questi affari volano un po' comunque. Perché non hanno la forza di rimanere per aria, ma non è che in questo modo a vivere. Sì, vabbè, è tipo sì. Vabbè, io sono a terra. È come se usaste il 50% della potenza. Okay. Ah, le montagne delle mie. Io sono a terra, sto mangiando un panino. Ti lascio qui. È mezzogiorno. No, secondo me, ci perdete in questo modo almeno. Tra l'altro lei continua a tentare di spiegarvi ogni tratto di questi affari. Che altro vi cazzo vi dovevo dire? Non lo so, nel caso vi servirà che non ve l'avrò detto. Allora, dicevo che se dovete atterrare ricordatevi di no, la cosa che vedete è che dicevo, passate in questo modo secondo me almeno fino alla notte per prendere, cioè comunque questo più uno più due siete riusciti ad avere più quattro. Sì, vabbè. Sono di natura, cioè che posso volare, sì. C'è chi può e chi non. Potresti averla avuto. Io può. E lo ottenete appunto dopo stando la giornata, fondamentalmente. Immaginatevi arrivare un attimo alla sera, atterrare sul tetto lì, che dopo una giornata rimettere i piedi per terra è una sensazione nuova. Potevi farlo mentre volavi, vomitavi sui passanti. Sai che divertimento. Per loro lei era già tornata di fare, ho preparato la cena, però ho bruciato tutto. Ti ho fatto meno 5. Ma che hai fatto, Mario? ho fatto cagare a cucinare e effettivamente vado a comprare qualcosa. Ma che va a comprare qualcosa? Ti faccio qualcosa io. 12. Vabbè, cosa fai? Recuperi fatto... lo schifo. Che... Fatto... Senti di fare esplodere le cose. Non lo faccio apposta. Io gli ho fatto gli arrivo per che mi ha fatto lei. Mi ha fatto tipo qualcosa di schifoso la carne. Mi ha fatto una torta salata. Ah, è perfetto. E quindi immaginate di mangiare al piano di sopra, appoggiati su una specie di barca rovesciata, su cui è stato attaccato sopra un pezzo di legno e fa da tavolo. Che cazzo di figata. E con delle serie improvvisatissime, cioè che te sei seduto su un barile di polvere da sparo. Mi accendo la fila. No. Un barile di polvere da sparo e state mangiando in questo momento. Bella cosa. Io mi sono tolta la tuta appena mi ho messo piedi per terra, me la sono tolta. Sì? Sì. Ma secondo me, boh, non lo so, hai anche fatto quel mega tiro. Sì, cioè, però bene, so volare, però immagina so che non sono io. Cioè, non è mio. Lo capisco, però immagina che questa cosa ti sta rendendo quello per cui saresti. Quello sì, però... Cioè, non uno schifo, però... Qualcosa di naturale, non è mio, Però è bello, sì, ho potuto fare quello che non avevo mai fatto. Sei un po' imbattuta, sì. Poi i giocatori non mi preferisco. No, non è che nemmeno io sto mangiando anche Lisbeth in questo momento. Immagino di roba, perché mai... tanto non... Guarda, no, Lisbeth fa 17 di prenderti a pugni, quindi... Ti mangi la mia, te la passo proprio. Sì! Va bene, e in questo momento direi che possiamo andare a cucinarci la cena anche per noi. Sì! Che ho fame anche nella realtà. No! Va bene, riassunto, non scherzo. No, va bene. No. Va bene, avete mangiato, vi siete comunque riposati e la mattina dopo partite per le montagne delle nubi a sud di Eskos. Di Eskos. Partite, immaginate vi aspetti comunque un viaggio di almeno 2-3 giorni. L'altra cosa è Marilyn sta venendo con voi. Ah. Ora ce l'abbiamo lasciato lì. Sì, Warash l'avevi lasciato lì perché avevi visto che non è in condizioni quasi di muoversi, cioè sembra un soprammobile. No, l'avevi visto, sta lì ribaltato, ha detto sì, fate di tutto, lui è l'erede del mastro di chiavi, vi prego, di qua di là. Siete partiti, avete affrontato un viaggio di almeno 2-3 giorni, in realtà ho appena detto una cagata perché potreste non averlo fatto visto che avete delle cazzo di tute all'aria e quindi non l'avete fatto. Già, infatti mi stavo domandando. No. E quindi secondo me in un giorno siete arrivati a le pendici delle montagne. Delle montagne delle nubi a sud. Va bene. Tiriamo le parti di mostri. No, la cosa che vedete è che che notate è che c'è un passo delle montagne, cioè avete già superato la zona collinare e siete già in quota in questo momento. Vi siete fermati all'inizio del famoso passo del viandante che sul quale vi siete un attimo fermati, anche perché secondo, cioè, Marilyn vi ha portato un po' lì perché avete immaginato che lui si sia diretto appunto lì. Secondo me è anche stato avvistato e se ne andava lì, e lei anche l'ha avvistato e andava lì. E in questo punto vi è una scarpata, cioè in questo momento voi siete sotto una scarpata che inizia a salire praticamente piatta, come ci fosse un enorme pietrone gigantesco, cioè grosso quanto una montagna, che si è appoggiato in questo modo su un'altra, un'enorme lastra, alcuni dicono che sia la zampa dell'unghia di un drago, se ne dubita anche. E in questo momento immaginatevi essere ai piedi di questa cosa, quindi c'è il bosco, la foresta, dal bosco compare una lastra di roccia che fa prima così verso di voi, inclinata in questo modo, e poi sale. È mattina, quindi c'è un sole caldo tra l'altro, e voi in questo momento siete su una sporgenza rocciosa e vedete a distanza che su questa scarpata di roccia c'è una figura che sta... Dio! Si sta arrampicando. Che diavolo sarà? Che diavolo sarà che si arrampica? No, l'ha fatto schifo, ha fatto, e quindi non si... Boh. Sei lì comunque. Che ora del giorno è? Mattina. Ok. Fai conto che sarà le 6 di mattina. Saliamo direttamente su? Certo. Io schizzo in aria. Ovviamente. Partite e sentite, dopo poco, le vostre tute, potremmo dare un nome figo ma adesso non mi viene, le vostre tute iniziano a perdere potenza. Schifo. Tanto che arrivate praticamente alla base di quella che è la... Scarpate, sì. No, fa tipo sì, no? Cioè questo, e voi vi state arrampicando su questo lato qui, sì. In questo momento, no? E arrivando avevi fatto praticamente così e siete arrivati alla base di questa cosa. Bene. Dobbiamo arrampicarci. Beh, no. Immaginatevi di essere attraverso all'altro anche un po' bestemmiando in mezzo alle frasche, a tutto il resto. Porco sole. Merda. Mirale. Marilyn. No, lei vi ha detto. Marilyn. Che vi segue. Marilyn. Ma, ok. Cioè, vi accompagna, e adesso? Caga in mano. Saliamo? A mani nude? Una scarpata come questa? Mani nude. Fatemi un tiro di osservare. Uno. Tre. Tanto sei cieca adesso. Ah, è vero. Tre. Io, madonna, ho capito, ma poi sui tiri di osservare fai 20. Fatto 38. Va bene, vedi chiaramente c'è body lì, lo vedi, c'era scritto sulla schiena. Vedi che sulla schiena c'ha praticamente una faccia, si sta arrampiando a mani nude. Sì. Proprio, avevi presente? Sportosi, cioè proprio solo con le mani. Sporto sul vuoto, quindi ha comunque almeno 30-40 metri da terra, mettendo le dita nelle fessure della roccia. E sulla sua schiena, vedi che c'è, te lo vedi chiaramente, c'ha un pesante affare di metallo che ricorda, cioè della forma ovale, a forma di punta di lancia, diciamo, con dei telami legati dietro. Sembra che stia portando comunque dietro un affare enorme. E vedete, si sta arrampicando. Senti anche, visto che hai fatto 20, senti anche che sta dicendo qualcosa. Bestemmi a sole, probabilmente. Di ripetuto e costante. Salmo di aria. Porco cani, io moro questa cosa! No. Sembra, cioè, te, non lo so, con sto 20 sa bene quale magia ti abbia fatto percepire che cioè lui sta facendo una roba tipo... Ma comunque sì, è lui. Tra l'altro lo vedi? Bene. Lo vedi bene a questo punto. Ma dai, diciamo che sei atterrata su un albero in cima e l'hai visto meglio, dai. Sì, se non sei arrivata tipo piccione. D'accordo, piccione. Vedi che è un alto elfo, ma è basso. Cioè, è un alto elfo basso. Un basso alto elfo. Sì. Un elfo alto basso. Un elfo alto basso. Un basso alto elfo. Belfo. Belford. È nato nel giorno della mensa, anche lui. Cosa fate? Lui fa a mano. Cioè, io scendo dall'albero. È lui. E sta facendo a mano. Quanto pesano le tute? Pochissimo. Ok, inizio saranno a saranno qualche chilo. Cioè, pesano di più le vostre inizio cose. Con le mie agilità. Che cose che... No. Con la mia agilità. Guardate che voi siete sempre avventurieri. Avete sempre un voi una sacca piena del charpame più vario. E in questo momento allora, una noia della Madonna. Una bussola, corde con rampino. Io sono fatta per scavare. È vero. Te ne dai anche le unghie, quindi. Appunto. Ma ce l'hai anche sui piedi. Ah, tra l'altro, sai un'altra cosa? Ti stanno venendo. Hai presente le gambe da coso? Hai presente i gatti come c'hanno le gambe? Con il tendine lungo e il tallone qua su. Sì. Ti stanno venendo in quel modo. Ancora so poco, però ti iniziano a salire il tallone. Ok. Ti stanno male le scarpe normali. Tanto, anzi, probabilmente vado in giro con i piedi fasciati e basta. Sì. Bello, mi piace. Vi faccio strada io e voi seguite la. Provo a volare. C'ho il rampino. Sembra che in qualche modo non funzioni i nostri affari. È lui, secondo me. Dici? Perché forse pensi. No! Metti giù la palestra! Tiro al piccione! Metti giù la palestra! No! Quando non hai la pistola? Sì, gli ho dato io anche il fucile. Ma quando? Mettilo giù! Va bene, non sprecare proiettili. Abbiamo dei rampini, ci arrampichiamo. Ma hai visto che cazzo ma non io niente. Loro li ma saranno 3000 miliardi di metri. Ok. Di Parsec. 18 totale. Parsec chi è? Un vecchio avventuriero, il signor Parsec. Francesco. 16 e 5, 18. Destrezza è questa. Ah, ok, allora... Usiamo la vita 17. Stu, vabbè, te parti, ti metti lì tanto, c'hai anche un minimo attrezzatura, quindi... Tra l'altro l'inizio dell'arrampicata è abbastanza semplice perché comunque la roccia è franata, è un po' come arrampiarsi su una zona di sassi e pietroni vari, quindi parti abbastanza spedito. Tra l'altro, allora, vedere arrampiare sembra effettivamente un po' una viverna. No! No! Più in là, forse. C'ho la picca, c'ho il rampino, volevo dire. E allora fai sto lasciando la corda dietro. Lo so, ma questo non l'ha capito. Ma te sei lì a un certo punto metti su un pietrone e il pietrone poi sta fa in fondo. Cosa? Ciao, porco di mezzo. Ma noi seguiamo la corda. Lui vede che sta andando spedito. Anzi, c'è proprio la scena in cui contro sole, immaginatelo contro sole. Poi da sotto gli alberi, te che sei un po' più in su, che è appena sporto. Sì, è vero. Per un cazzo. No, vabbè, lo percepisci. E vedi lui ovviamente svetta dietro l'angolo della roccia attaccata e inizia a salire sulla parte. Bene, cominciamo a muoverci. Io gli berci. I berci? Sì. 12. Va bene, inizi a arrampiarti anche te. Ah, io seguo lei. Io seguite costeggio il dastone di pietra. Quello che ti era scivolato. conteggio sì, tutto. Più buono, ci sarà un giorno di cammino per questo. Come? È enorme, tu hai appoggiato su una montagna. Vabbè, che ci sia una montagna grossa come il Cervino e sopra c'è appoggiato un pietrone che la sovrasta. Mi sposto più di là. Sti gran cazzo. Sì, ma perché è gratis nel fantasy? È vero, hai ragione. Oh, perché? Riprovo. Okay. Ah, perché magari la zona lì faceva schifo. Esatto, vai, c'è vento. Vai. Hai un più uno per questo. È più uno il mio. Ma volare? Sì. Vai, tira. Beh, ti accorgi e non si... No, ma sai cosa? Noti è per terra. Vi sono delle nelle pietre del cazzo che ci sono lì intorno. Vi sono delle pietre leggermente luminescenti e tonde. Ma ne abbiamo solo. Ne mangio una, mi faccio una. Mentre loro vedi che stanno andando avanti, eh. Sì, sì, sì. Anche sì. Lisbeth, sì, vedi, c'ho tutto, è con me. No, è con loro. Che loro hanno fatto la scelta giusta. Eh sì, Quando c'è il puntatore della quest dall'altra parte a Sky. Tu. Vabbè, sei sull'albero. Sei in cimona. Aspetta. Non hai capito. Sono dei venti. Sono dei venti. C'è un po' di vento. Lascialo trapiantare per terra, ti prego. Va. Dove? No, vedi che questo affare ti sorregge, nel senso, però vai giù lentamente, come se non avesse potenza di propulsione. Vedi che tra l'altro fa tipo... Torno a Marilith. Che vi sta aspettando a discreti... Cioè, lei vi ha lasciato... Dove noi vedevamo il tipo. No, lei... Allora, voi siete arrivati da uno sperone di roccia. C'erano... un chilometro di bosco, sì. E poi il pietrone. Avete attraversato il chilometro di bosco in caduta lenta, diciamo. E lei è rimasta là perché vi ha detto: io col cazzo e mi faccio un'arrampiata in cui ci rischio la vita. Perché allora, se non ci andavo da prima. Allora, mi metto l'anima in pace e comincio a scavalcare. Bravissimo. Top. Segui lentamente. Passano alcuni minuti, passa almeno un paio d'ore, secondo me. E siete nella zona più complessa di questa arrampiata. Vai, fatemi un tiro che chi fa meno di 2 cade e rifà il personaggio. Perché siete nel punto in cui era lui prima. Dovete... Ha fatto 2! Io sono sotto sì che la stai facendo me. E siete nel punto, vi dicevo, in cui le gambe non si appoggiano più. Perché siete... Cioè, la roccia sta arrampiando è... Cioè, una pendenza di meno 45 gradi, praticamente, e vi siete così nel vuoto. Cioè, l'ultima parte di questa arrampiata è così. 19. 3:21. Secondo me è bellissimo, c'è sta la scena, è qui. Te stai arrivando da dietro e ho visto lei che... stai fuori. Lanciami in te. E anche voi riuscite a scavalcare questo punto e a vedere che cosa c'è sopra. Anche voi per un attimo accecati dal sole, tra l'altro è un posto bellissimo, non ve lo sto a dire, l'aria di montagna, i fiorellini nella roccia. Ne prendo 12 per fare la pozione. No, scherzo. Riuscite a scavalcare questo punto e ad arrivare, diciamo, su quello che è poi la vera scalata, che ha un'inclinazione di circa, anche questa saranno comunque 45 gradi, che non è così, anche di più. E su questa vedete che da qui in su crescono alberi secchi. Cioè, alberi secchi, scusatemi, alberi che crescono nella roccia, quindi non molto belli, rigogliosi, ma più incarniti nei sassi. Vedete che comunque è tutto molto irregolare, ma c'è una lunga spianata che porta, sembra, praticamente dentro il body nessuno. Dentro il nuvole. E vedete body lassù in cima. Che palle. Che, comunque, anche questa è una scalata complessa, perché mi mette in piedi sulla roccia sbagliata. Scusa, ma adesso... Body! Io da mezz'ora l'ho fatto, ma... Non ti... Fermo, Buddy! Ti caga nulla. Mastro delle chiavi, fermo! Lo vedete, te lo vedi, perché ormai hai fatto 20, ti basta anche per questo. Lo vedi lui che fa così, si gira indietro e ricomincia a scalare. Beh, ce ne frega un cazzo. Servo la chiave, Mastro delle chiavi! Comincia a salire. Ci metto a tua madre! Tutto crollano dei sassi perché state urlando. Io lo smetterei. Servo aiuto! Fatemi un tiro. Dai, facile, 5. 17. Vedete che c'è qualcosa che sta uscendo dalla roccia poco distante. Cosa? Di orso su. No, alla vostra, un po' più in su di voi. Vedete, praticamente quello che vi sembrava un sasso, in realtà si tira su e sembra essere una creatura brutta fatta di roccia che viene a darveli. Così, a grasso. Non urlare. Già, tra l'altro. 10. Colpa sua. 10, nel senso, arriva in questo turno e se la prende. Chi è il più avanti? Te, se la prende. Tieni, se la prende con te. Vai. Vedi a fare i tiri alti? Il tizio di roccia. Ma non lo so. Che ha. Io cerco più 20 contro di lei. Se questo mi viene in giù, a corsa tipo. No, no, è grosso. Sembra. Ah, cioè. Prendo molto banalmente sembra una specie di. Perché sennò un troll e un sasso. È un gol. E ora funziona bene? È un golem di roccia, tipo. No, io pensavo piccare il mezzo, lo faccio rosare giù. Cioè, è alto 2,5 metri. Però no, vabbè, in mezzo alle gambe. Largo 1 metro. Tra l'altro bello, c'è anche l'albero gli era cresciuto addosso, tipo qui. Che figata. Io scanso di pelo. Avevi letto da qualche parte di strane creature chiamate i mangiaroccia? Effettivamente. Non erano vermi, no, quelli sono i bai da pietra. Mi scanso, direi, prima di pigliarle da queste. Ah, quindi lo superi. Io lo supero di pelo. Mi pare giusto. Guarda che culo. 16. Lui ha fatto 1 e me lo ha 18. No, sai fai? Te gli passi dalle gambe e fai... E cade probabilmente in faccia. In questo modo... frantumandosi in mille pezzi. Va bene, è risolto. Voi continuate a salire. Vedete che i pezzi sono frantumati dopo un po'. No. Via. Io mi sto arrabbiando. Domanda, ci sono delle rocce più, cioè, sopra di questo golem troll? Così sono. Beh, 2 metri, non è vabbè, se io calo sopra di lui, ci sono delle rocce che potrebbero cadergli addosso e magari mandarlo più giù? Sì. Lo faccio. Ok, salgo. Anche te lo superi, prova la agilità. Sì. Lì superi, perché a questo punto sono 3. Cioè, diviso in 3 pezzi. Bene. Corri. Vai. 7. Troll più sfigato che abbia mai fatto. Non so contare. 4 e 3. 13. Allora, no, sì, ho visto. Voglio parlare a tutti gli amici a casa. Ora. Allora. Tiro il dado. 4. O sarà Morwen, come tu ti chiami. Suppongo su mano. Me lo ripassa dicendomi: hai fatto 4. Esce un 20. Bambini, non giocate di ruolo. Non giocate di ruolo. Non fatelo a casa, perché è una cosa illegale. Credo in 12. Credo ci sia la pena di morte a qualche parte. Io non vorrei di nulla, però. Lo dicevo in chiesa: non giocate di ruolo. Giocate di ruolo. Diventi ceci. Vabbè. Tu non sei riuscito a superarlo, te ne trovi uno davanti e te lo dai in questo turno. Tu sei riuscito a superarlo, nel prossimo turno arrivi. Te, mentre sei praticamente con lei, state superando l'ennesimo blocco di roccia. Sono altri alberi brutti, tanto sotto te sono olivi questi affari. No, io non so per rialzare. Ti prendo per un gomito e ti porto verso la ruralità della situazione. Adesso le prendiamo. Ti tiro una manata. Lo evito. E mi piace, lo superi o gliene dai? Gli do la roccia, lo supero. Via. Oh, no, non ho ancora fatto un tiro superiore ai 10. Tiro? Ma nemmeno lui. 8. 11. Sto. No, te cerchi un po' di scansarlo. Vedi, questo affare è abbastanza rincoglionito. A un certo punto, ti dà una crogna. Fammi un tiro sotto al 10. Rotoli di sotto e ti fai del male. Che cazzo. Ah, tra l'altro, ti ha 16. Comunque fatto 3 danni. Dai, 16. Parabili d'armatura? Sì. Fatto 3 danni, 16, ti pigli sta legnata. Stai lì per cadere. Ti riagganci a un ramo di un albero secco. E degli altri 2, eh? Un olivo. Sì, un olivo. Probabilmente olive da tavola. Un olivo e fa uva da tavola. Un ovino. Vabbè, un olivo. Ti agganci a questa cazzo di ramo quando vedi che gli altri 2 ti stanno venendo il godino. Facciamo quello che dobbiamo fare. Noi agiamo, diciamo. Seguite. Io finora sono seguito. Allora, l'ho presa, l'ho portata verso queste pietre che avevo visto prima e adesso le spingiamo di fuori. Ci siete sopra, senti. Già. È uno di quelli. Sì. Leva! Spingeva! 8. 14 e 4 di forza, 12. Aspetta, adesso è un test di forza, puoi sommarlo e... Te quanto hai fatto? 12. 25. Minchia. 24 pietrone più 2, 26. Grosso, 26. Io 26. 26. Mettete questi tizi, ti stanno venendo addosso e un pietrone. Con la testa. Oh, Dagmar. Sì, vabbè, mentre lo facciamo cadere, urliamo, nasconditi. No, vabbè, aspetta. Mi lascio cadere, plano, che ci ho colato addosso. Davvero. Plano e mi riattacco. Bravo, bravo. Beh, gente, molto interessante. Non te l'aspettavi, vero? Questo vai, è al 10. Poi non c'è più. Sì, dai, al 10, sì. Così complesso. Se, no. Fai volare più uno. Fai volare più uno. 10! Ti passa proprio il pietrone sotto, la corrente d'Elba, riboccare, pa! Così proprio di che questo affare ha schiacciato i suoi fratelli. Vi state avvistando. Vedete più in su? Vedete più in su che Body si è fermato e è fermo lì davanti, sembra ad avere a che fare con uno degli stessi problemi di roccia che avete avuto voi. È lì. Sentite così. È il momento di recuperare. Ah, aspetta. Sì. No, ascoltare, ma attenzione! Ti ho dovuto sentire. Vedete che Body lo vedo volare. Vola verso di voi. No, effettivamente lo potete volare indietro di sbagliati metri. E atterrare, sboom! Avete presente quando c'è questa musica non è adatta alla situazione. Avete presente quando state scalando una montagna e venite colpite da un golem? Ecco, con il nuovo salvavita Boselli! Non succede. Che Boselli? Che non so, non so come si dice. Vabbè, Borselli. Borselli. Bodelli. Ma come? Com'è il salvavita? Ma che? Dai! Anzi, è regione! Ma che io! Avete presente la scena di Frodo che è appoggiato sui pietroni sotto la lava alla fine? Sì. Cena? Una cosa del genere, sì, sotto la sbom, vedete, i pezzi di roba che rotolano di sotto. Probabilmente adesso è hosto. Se siete anche una bestemmia, che Chiara è... Torno indietro. Porco sole! È comunque centinaia di metri. Allora saliamo, continuiamo a salire. Lui vi dà comunque un vantaggio di almeno... 10-15 minuti. Sarà anche il momento di recuperarlo. Sì. Vai. Via. Test di corsa, anche te, anche se te hai un malus. È al 20 il recuperarlo. E te hai un malus. 20! 18! Attenzione! 20! Grande. Vabbè, dai, lo chiappate alla 35! Ma di merda! Io provo a fare un tiro normale, Sì, sì. Sopra i 10, vediamo se ce la faccio, 14! Sotto i 10 ti arrivava un altro tizio. Partite tun, perché in realtà potete effettivamente correre anche se, cioè, non ve lo riesco tanto. Aspetta, è arrivata Lisbeth, per questo che prima abbiamo urlato. Ha spaccato la porta e è entrata. È entrata, adesso allora, sentirebbe la sudente voce di Lisbeth. Salve. L'altra volta, Lisbeth. L'altra volta abbiamo cercato Body, non c'era. Abbiamo sperato in mezzo al casino delle mafie, abbiamo preso uno della banda dei nani, l'abbiamo cazzotto, l'abbiamo lasciato a un guaritore, l'abbiamo pure pagato, credo. Che siamo bravi, perché siamo delle brave persone. Siamo tornati a casa sua, c'era solo la sua moglie ci ha detto, ma lui andava di barta, sta solo dietro ai suoi progetti, doveva aprire i 6.000 le 8 prove. Ah, no, le 8 prove del suo maestro, grazie. Andavo verso il lago. Il lago, no, in realtà no, le montagne del Sud. Sono... qualcosa di tipo 6 giorni da qui a The West, dicendo i Sicili. Montagne del Sud. Montagne delle nubi, montagne delle nubi, grazie. Del sud, grazie, bello. Sento il sugo. Del City. Oh, abbiamo preso delle tute alari e siamo andati in là. Esatto. Sì. Io volevo spigliarsi la ferro mosca, purtroppo. Anche io la volevo pigliare. No, c'era un posto solo. No, ce n'erano due. Vi ha insegnato ad usarle. Avete volato per un intero giorno, è stata un'esperienza bellissima. E adesso cosa state facendo? Adesso siamo arrivati alla base di una montagna, dove abbiamo visto Body arrampicarsi, portando qualcosa di pesante sulle spalle. Non sappiamo perché. Salmodiare. Le tute alari non funzionano più e abbiamo fatto degli strati. Abbiamo degli strani sigilli a terra e non c'è che li ha fatti sassi. Tipo mucchi di sassi a forma di sigilli. Vabbè, li ha messi Body per evitare che la gente venisse. Stava anche salmodiando. No, hanno attaccato anche Body. Sì. I sassi. Fammici arrivare. Allora, abbiamo cominciato la scalata. Durante la scalata, mentre stavamo per raggiungere Body, cioè stavamo per cazzo, mentre seguivamo Body, e sono spuntati fuori questi grossi golem di pietra che ci stanno dando un sacco di mazzate. Siamo riusciti a schivarle, bla bla bla bla bla, e basta, non è successo altro. Un golem di pietra ha attaccato Body, lui è stato fermato e adesso è un attimo sbalzato indietro, è fermo su una pietra. Al che ci siamo detti, sarà anche l'ora di raggiungerlo, e io ho fatto un 35 più 1 per l'abilità. Quindi, per arrivarci, forza, stiamo raggiungendo la musica che su YouTube mi bannerà. E adesso il master riprenderà. Ma la domanda è Petta e Bodhi, perché se ne andà in perché il maestro coso il bibliotecario mastro di chiave perché la chiave la chiave lui è lui è il mastro di chiave. Non mi sto ricordando cosa che fine ha fatto il primo mastro di chiavi. No, Warash si è lasciato nella fucina da Marilyn. Ah, ok. Il laboratorio che serve più un soprammobile che una bestia. Già è morto. Che una bestia. Ciao, dicevo. Boh, sì, sì. Vai, fammi un tiro di correre anche te, sotto agilità, per favore. Che non hai. Agilità ce l'ho. Ah! Tre, vabbè. Ah! Scivolo, mi gratto una gamba. No, agilità c'ho ben uno, quindi ho fatto quattro. Ah, mi sono tagliata una gamba su una roccia affilata. Il moncherino, vabbè. Nel mentre voi io avete praticamente lo... Cioè, la decina di mettere a lui quando... Bravo, quando lui... Si ritira su, vi guarda indietro. Ok, io sono a capo. Non mi prenderete mai! Su tutto il spazio. No, c'è la decina di metri da lui. Hai recuperato un quarto d'ora di arrampicata. Ok, bene, salto. Ma io sono fermo. Vai, fammi un giro di agilità e... 105. E... Fa bene la capa! 23. Tanto, madonna! Guarda! Cazzo, ti spingi. È vero. Come ti dicevo, c'hai le gambe da un po' da gatto, quindi mi spingo a essere molleggiata. Volevo stare solo qui alla mentale. Fai questo salto, okay. Da una roccia all'altra, riesci ad aggrapparti a un ulivo, riesci ad aggrapparti, spon, lo vedi proprio di schiena. E vedi, lui ti guarda, vi guardate, e lo vedi, e è lui. È lui. E lo vedi che è lui. È una cartellina, scappate! No, aspetta, adesso lo trovo. Scappate, un fascino. È lui! Guardalo solo te! È al contrario! Già. No! Ah! Oh, figo! No! E io ci sto arrivando, quindi... No. Ah, probabilmente ha questo sulla schiena! Sì, vabbè, ma è quello di... questo affare sulla schiena! Sì, è ripreso dal cibo! Ok, altro operaio! Altro operaio! Sì, vabbè, mi vengono a cercare a casa! Ma è tutta una citazionismo. Vabbè, noi due stiamo andando su con lui e poi ovviamente mi sta portando. Vabbè. Se non trovo una sua cosa, muori trascina. Vedi, dicevo, riesce a vedere di schiena in faccia. Sì. Vedi sì. Nei nubi dell'alcol del mio coso. Nei nubi del sangue di Viverna lo vedo. Sì, perché in realtà vedi poco. Però comunque, vabbè, non è che. Sono vicina. Cioè, vedi male, non è che non vedi. Comunque, vedo grigio. Sei a 2-3 metri da lui. Lui ti guarda. Si riaggancia, ovviamente sta a fare, sembra si sia praticamente arraffazzonato sulla schiena, una specie di imbracatura, piglia e ricomincia a arrampicarsi, prendendo sulla sinistra dove praticamente c'è un'altra roccia che fa, che si sporge così in fuori verso il nulla. Vedo un'altra strada da cui potrei anticiparlo, anche scalando. Fammi un tiro su mente se tu avessi 80 intuizione. Mente, no, non intuizione. Hai intuizione? No, metti di abilità. Master, posso sapere? Vabbè, dato pure. Vai. E 3. 3. Porca troia, no, te non ci capisci un cazzo. Anzi, secondo me perdi pure un qualche secondo, no? Perché ti fermi un po' a fare. Sì. Potrei passare di là. Passo a casa. Se ne sta andando. Ah, ok. Vabbè. Risalto. Posso sapere solo quanto è dura questa scalata? Difficilissima. Cioè, ma allora voi avete scalato prima. Io sono rimasta giù. Allora, praticamente, come dicevo a loro, c'è una montagna grossa come. Non puoi esagerare. Una montagna. Una grossa montagna. A cui c'è appoggiato un pietrone di roccia messo così. E voi vi state arrampicando. Avete prima vi state arrampicando su questa parte. E ora vi state arrampicando su questa. Ok? Da qui in su c'è la nebbia. Cioè le nuvole praticamente. Siete già in alta quota. Ok? E la scalata, la prima parte ma era praticamente non molto. Ci sono, boss. Ci sono alberi ulivi. Perché se no, nel senso, la vediamo nella sua interezza o no? In parte, l'avete vista a distanza, perché da lontano si vede. Sì, però se a un certo punto ci si infila dentro il bosco, poi non si vede più. No, quello volevo dire. Sì, sì, ci sono. È comunque molto grande, quindi ci sono boschetti. Tra l'altro è anche molto irregolare sopra. Cioè, da lontano è un effettivo pietrone. Se lo guardate da dove siete ora, vi sembra solo un ammasso di sassi su una salita di merda, in cui basta mettere un piede fuori dal posto giusto e ruzzolare fino in fondo, sbucciandosi anche l'anima. Ti rifai anche la base. Grazie. Grazie. Ma bisogna proprio arrivare in cima. Sta parlando con te, Probabilmente sto parlando cioè, sulle spalle. No, siete no, siete praticamente insieme. Sì, sì, con lui si sta arrabbiando su un'altra scarpata, ovviamente di fianco. Sì. Vedi, lui fa tutto a mani nude. Beh, stavo per fare una cosa, però non ce la potrei fare. No, se muore, non con la minchia. Andiamo su di nuovo. Tanto sembra che stia citando qualcosa. Adesso lo senti. O ascoltare più uno. Vai, usa ascoltare più uno a 10. E niente, 4. Schifo, non lo senti. Allora, ha detto! Senti loro e fanno eco di fondo. Ma non c'è niente! Lasciamoli qua! Va bene, si va avanti. Davanti a voi due, oddio, vi compare un altro schifoso uomo di sassi, troll di sassi, un albero di montagna. No, non ti lascerò qui! No, nel senso, affrontalo te. Sbo! Ti dà una gnata, vai! Scatrana! Spari? Spari? L'ultimo colpo del fucile della canne mozze. Scatrana! Hai il fucile devastante dei mille anni, fa di 20 danni! Dio! 20 danni, però aspetta, almeno 5 ti esplode in mano. Ah! Aspetta, almeno 5? Sì. Cioè, da 5 in giù. Da 5 in giù ti esplode in mano e ti fa 2 di 20 danni più un di 4 di danni ad aria. Io sto rotolando via appena sento questa cosa, perché non so. Oh mio Dio! Ora senti la aspetta, base no, che adesso leggo perché non sa che dove. Ragazzi, per favore, il primo colpo d'arma a fuoco mi può esplodere in mano. Allora, scegliere possente, 2 di 20 danni, a due mani esplode all'8 meno. 8? Sì, sì, hai fucile a canne mozza. A canne mozza. Ha requisiti di forza 1, cioè requisiti di forza 1. Sì, certo, c'ha requisiti di forza 1. Perché ci vuole la forza? Perché regge il colpo, se no punto! Ci vuole la rete! No, aspetta, scusa un attimo. Scafrante! Sì, ho capito. Io sono scesa davvero, perché se no con me sulle spalle che cazzo è così? No, vabbè, ma è, ti devi comunque piazzare, cioè sì, è sì, un cioè, affare. Beh, sei messo su uno spuntone di roccia. E io mi sono messa dietro lo spunto. Era la rosa di Dio! Ma era la rosa di Dio! Esatto! Vai, vai, sparati. No, però non lo già, puoi mancare. Sono già così nel caso succedesse qualcosa di brutto. Scrivi no! No! No, c'ho la polvere e la sparo nelle vene io. Vai, spara! Tira di due. È un cazzo di sei. No! Ma non era questo, dove dovevo tirare? Era quello lì. Tre. Fatti due di 20 danni. Vabbè, tanto tiro male. Aperti, aperti, aperti. Sì, sì. Dai, che cattiveria. 15 e 12. No! 27. Boom! Ti salta quell'aria d'udita, ti prendi questo affare e ti esplode in mano. Sentiamo un po'. Ti sbudella e ora ti pigli anche l'ammazzata, il mostro. No, non lo prende! No, ha fatto 11, secondo me. Preso prossimo turno. Vabbè, io esco, mi affaccio là dietro questa cazzo di roccia così, con la spadina in mano. C'è cioè lui con una spada di sangue, la mano nell'altro, fucile aperto a banana. Sì, sono così. Sto guardando in buono. Tipo ribaltato sì, dietro, fammi un tiro di sferimento. Cioè, noi siamo. Io c'ho la polvere da spada. Ah, non lo dovevi avere. Senti. Al 10. 18. Ma ti riscoprirà le 5 le pistole. Dai, tu esplode le pistole. Ah, va bene, esplode le pistole. Vedi uno. 15. Poi papà. Cioè noi siamo tutti mausi. Lui fa comunque 19. No, secondo me in questo turno gli spari 3 colpi e riesce a tenere a distanza. Il prossimo turno ve le dà. E che cazzo gli si fa a questi? Noi ci giriamo. Allora noi questa cosa secondo me l'abbiamo vista. Ma ecco perché voi non avete sentito che dice Modi, perché voi siete non dovete anche ci siete dietro e col fuori noi ci si guarda. Master, posso avere una migliore descrizione di questi esseri in maniera... Vai tu, allora, sono praticamente le rocce su cui camminate, le rocce si alzano, e diventano dei tratti semi-umanoidi. Quindi sono degli ammassi di rocce diverse, non uno di questi no, esatto. Uno di questi si è spaccato e se ne sono generati altri. Hanno anche degli alberi che gli escono sopra e sono un misto tra dei golem di pietra, degli elementari della pietra e dei troll. Ma alti tipo... Alti tipo 3-4 metri. No, scusa, questo lì è alto 2 metri e mezzo, anche lo di prima. C'è sul pianeta e li costringe. Lui a loro non tira più uno più. Io sì. Va bene. Uomini contro donne. Io sento sto botto. Mi giro e plano giù addosso al coso di roccia. Vai, fammi un tiro. Spingilo di forza. Tiro di volare, è difficile 10, dai. Vabbè, a parte è un bonus incredibile. 9 e 4. Ma mi sembra un 7 che non va bene, guarda. Vabbè, comunque lo so. Anche sopra la linea addosso. So ci arrivi nel turno in cui combattono tu? Io seguo Body. Ok, vai. Sono divisi. E ma facciamo voi le verso lo spero di roccia e facciamo al 10. Se fai meno di 2, botti sotto e ti fai. Sì, questa mano sta prendo. Non posso fare meno di 2, meno ne faccio uno perché ho 5 di esattamente. Va bene, ora io 20. 20, Dio bono. 28. Cioè lui a un certo punto vedi, mette mano una mano, te approfitti di questo momento per recuperare Ares, tu t'arrampi, a un certo punto ti stai proprio tenendo con il dito proprio da arrampicatore professionista, bellissimo, è vero, da arrampicatore professionista, a un certo punto riesci a acchiappare una corda che penzola da lui sopra, mm-hmm. acchiappallo, e in questo momento sei attaccata all'affare lui dietro, tra l'altro l'affare lui dietro la schiena è lungo 3 metri. Ok, ci sono aggrappato. Sei attaccato con una mano alla parete, le gambe penzolano in una decina di metri di vuoto. Di vuoto, e con una mano sei attaccata a una cinghia del suo affare e gli si è sciolta. Ottimo. Vedi? Che cosa diavolo volete da me? Non avete mai i miei soldi! Soldi? Ah, già! Ah! Fanculo! Ah! Lui tenta di darti una pedata. Fantastico. E buttarti di sotto. Ti pareva? E niente, resistenza al dolore per non mollare la presa? Beh, sì. E 4. 11 più 1. Ti fa 12-6 danni, perché è così normale. Ti pigli una pedata in faccia e lasci la presa da lui. Ok. Quindi penzoli indietro, se non siete attaccati tipo in questo modo di spalle contro la parete. E per un attimo c'è anche le vertigini a guardare di sotto, che sei a 10 metri e ora stai guardando proprio il baratro. Sotto te vedi loro. Allora, quindi c'è lei, te la presa nera per forza la cosa, e piomba con un corvo sulla testa di questa fai. Vabbè, io esco da dietro il coso, piglio lui e spo! La gladiata. No, lo butto da una parte. Perché immagino il coso che si sta lanciando. Sì. Io gli arrivo in testa. C'è anche un bel. Secondo me c'è anche il come si dice? L'albero sradicato in mano. E te lo stavo dando nella testa. Se l'è sradicato dalla schiena. E quindi cosa devo fare, Master? Un test di agilità, forza, destrezza. Secondo me è forza. E allora prendi di questo. No, questo via. Guarda, lui fa 2-5. Io fa 2-4. Va bene. Te. Spray. No, allora prima tira te. Che vai, gli farai danno. 3. No, sei di schifi. 3 forza. 3, 6. Mamma, c'è stato un tiro superiore ai 5. No. Vabbè. Allora, succede 7. Questo. Succede questo. Te gli arrivi in testa, lui fa per tirare una legnata, te lo distrai e la tira praticamente alla vostra destra. Boom! E Lisbeth riesce a buttarti un po' verso sinistra e a ribaltarti in questo modo. Avevi l'armatura, i danni erano parabili l'armatura, eh? Vabbè, un danno. Vabbè, 26 danni devi dire. Anch'io ho un'armatura. Te vedi lui e praticamente, c'ha due dita mozzate fino a qui. Cioè, c'è rimasto una falce. Creepy. E la faccia ovviamente riaperta di sangue, schizzi, pezzi, svariati pezzi. La faccia scivolerei la parte davanti al corpo nera per la mordere della spara esplosa. Le cure. Nera e sudicia. Molto sudicia di sangue. No, dammela a me questa mano! Tu intanto spara! E usa il fuoco e la sua pistola per fare la magia di cura. Che bellissimo! Ti fa più uno! Ti prego! Fare giusto! Che si è parato! Dio buono dell'occhio! Cioè io mi scanso per non che mi tira fuori la pistola, scusa! Vabbè! Lanciamo! 15! È stata da tirare! 4! 15 e 3, 18! Ok, aspetta, era difficile! 30! La magia! Difficile 30! E te hai fatto? 18. 4, pam, spari un altro colpo a caso, levati di colpi, eh? Sì, me ne rimasto rendi, uno. Te gli rendi quanto hai fatto il dado più bonus di puntata. 18. Vabbè, più che altro io ti vorrei. Queste dita stanno sanguinando come la merda, te le vorrei. Esatto. È quello che ha fatto. E mi levo però 12. 68 più 18 quanto fa? Solo Dio lo sa. Nel mentre te non, cioè, 78, non è che 86. Non è che lui tenta di fare levarti dalla sua testa. Dai. In testa. Vedi? Fammi un tiro di osservare. Mentre sei sulla schiena di un golem. Due, non vedi un cazzo perché sei sulla schiena di un golem incazzato. Ma c'è dei rovi che ti stanno infilando ovunque sulla sua testa. Vai, Daniele. Picca tra col. Ci avrà un punto. Sì. Sembra le pietre siano collegate dalle radici degli altri. Scalzo. E lui fa 18. 15 e 20. 4. 19. E lui fa 20. C'ho la lancia. E qui? Cosa fa? 3 più 3, 19 più 3. Tra l'abilità hai danni? Danni. Non lo so, è già. No. No, c'è un'abilità lancia. Era 2. L'abilità lancia 3. Ma te la sei segnata cosa fa la lancia? Sì. Più una danni. Più un danno. Sì, allora l'hai superato, va bene. Sbom, riesci a scansare il suo colpo buttandoti di lato, piantagli e sta fuori. Senti, crac, ta, ta, ta, ta. A un certo punto senti, come se qualcosa si infrangesse, vedete dei pezzi di qualcosa che sembra pietra che va in frantumi ed esplode leggermente, lo, puff, così, e vedi che crolla. Di prima. No, voi siete dietro al sasso, quindi guarda, a meno che non faccia 20 non vi prende. 3, perfetto. L'avete distrutto. Grazie ragazzi. Siamo da body. Che schifo! Mi affaccio dietro il sasso. Bene, no, mi arrabbio più su di lui. Quello? Va bene. Quelli. Ah, penti, allora, lui sta facendo. Lui sta salendo. Sì, quello, la parete, lui sta facendo una diagonale lungo la parete. Tu puoi tentare di andare butta addosso nell'ultimo secondo per mettere la casa fra me. Vedo lui dove arrivare. Lui di una. Che diavolo ha fatto le invenzioni? Tua moglie, Marilyn. Oh no! Ci mancava solo lei! Allora! Porca puttana! Ma porca puttana lo dico io, no, lo supero. Vai, è agilità contro la sua, è peccato di lui. Cazzo, e vai, lui fa 38. Ciao! Ti odio! Pare Dio, Bono! Io lo seguo! Ma no, no, vedi, lui sa quello che sta facendo. Tra l'altro, lo vedi, anch'io, lui c'ha di merda. Sembra veramente, cioè, lui si è allenato a fare questa cosa. Mm-hmm. È uno che si muove con agilità, attaccandosi anche solo le braccia, riesce a darti un sacco di spazio in punti in cui te ti tocca mentre ti tratti su, poi magari sbagli la presa, ti venvi un sasso, ne piglia un altro e ti ridistanzia un po'. Cerco le dita di Agmar. Non ci sono più, gli è esploso. Sono proprio esplose, cioè, se poi c'è il fucile aperto a banana in questo momento. No, appena buttavo via, buttavo giù dalla montagna. Ah, ok, no, sono proprio esplose, non sono recise. Sì, sì, sono. No. Protesi. Ma non è caro. Ora la può fare la pistola, però. No, comunque sparavo a sinistra, che secondo me fucile grosso a quella maniera, mi sono messo il cavalcione sopra. O uno te ne mangio la canna. È un fucile a canne mozze lungo un metro e qualcosa. Sono messo il cavalcione dietro, con sinistra sparavo, a destra tenevo la canna giù. Vabbè, ok, sì, ok, vabbè. Cosa fate? Va bene, io in realtà le sto cercando comunque. Poi voi mi rendo conto. Stai qui. Perdonami, credo che siano esplose. Non ci sono più. Voi due, sali. Qui, immobili. Saliamo. Voi io non ho fatto niente. Sì. Una volta, tanto. Non ho fatto niente più che curarlo. E cosa dobbiamo fare? Stai qui e curalo. Ancora? Ha già fatto. Ha già fatto. Io risalgo. Fatemi un, voi tre, fatemi un giro di osservare. Oh. Difficile 15. 18 12 Te guardi e vedi che c'è altra gente che sta scalando. Era ovvio. Che piramide. Madonna. Ma è geniale, eh? A che distanza? Boh, saranno a una decina di minuti di arrampiata da voi. La palestra. Ci vuole quella raggio ampio. Io non la lancio la mia picca. C'ha il raggio ampio? Sì. Perfetto. Sì. C'ha anche un più una. Ok, perché sono comunque a 50 aspetta. Metri a voi anche lì. Ma loro avranno visto noi. Sì. Come cazzo fai a dirlo? Guarda le esplosioni. Tu no, a parte scherzi. Mentre vedi e non t'hanno visto. No, mi metto nella non ci hanno visto. Tra le rocce. Te fa farmi lavoro. Metto tra le rocce. Tra non c'è qualcuno Metto fra le rocce. Hai visto anche loro si porta roba sulle spalle. Infatti sto cominciando. Metto tra le rocce, abbassa acqua a tavola, metto anche un po' di roba sopra. Fermo sì, di morto. Inizia a piovere, sei nella giungla. Oh, sento rampo. Mi metto i body e a fare, cioè, freelining, sì. Come se non ci fosse. Vai, va bene, allora mi acquatto anch'io per sì, non essere visibile. Per osmosi. Vai, tira sta prova. No, ma queste sono tiri di precisione. Vai. E quindi non lo so, arriva in cima mentre te e sei lì che ma perché si sposta? Tutto sto puzzo è fatto. C'è un silenziatore sulla palestra. Vai, tira sto cazzo. Ah! 5. È in bilico. Questo è chiaramente bilico. Bilico. Che bello. Non era nemmeno ragazzi a premere. 14. È tanto difficile 20. E una palestra 15. Tum, Dio buono. Io mi già correre un piano di vento di sparo. Dio buono, hanno sparato. Te lo alzai proiettile. Te l'avevo detto, stupido. Ma giù. Gli ritiri. Cosa fa? Aspetta, un attimo, giro d'azioni. Te gli ritiri. Sì. Te sei? Cosa fai? Acqua a dietro di me. Essere presa. Okay. Io mi ci a correre in su invece. Va bene. Io gli sto dando dietro a body. Okay. Uguale. Allora, andiamo dietro a body. Scusami, master, posso sapere quanto c'è tra noi e loro? Tipo. Babà, centinaia di metri. 200. No, un centinaio di metri sì. È più okay. Che altro è scalata difficile, quindi comunque vi ci vorrebbe. Cioè, vanno dato almeno. No, ma era 10 minuti di scalata, fai conto. Perché tra l'altro loro in questo momento sono in un punto sporto verso l'esterno. Cioè, la massima difficoltà possibile del Ah, stanno facendo una cosa così? Sì, sì. E sti cazzi. Cioè, sono su uno sperone così. Pia, ma la pistola non c'è lì a 100 metri. Eh? La pistola non c'è lì. Infatti ti hanno sparato con un fucile a cecchino. Ne voglio quattro! Quanti sono più o meno, si vede? 8, secondo te. Io sto salendo. E te gli spari così. Vai, segui Body. Seguo Body. Lui fa 19. Che cazzo? 20! Sono più 10 di agilità. Attenzione. No, nulla. Tatali via. Lo vedi te, l'avevo visto sparire in un bosco più su. Bene. Tanto che ti giri e vedi la situazione in cui sono loro. Di merda. Te stai tirando non la vedo. Su. Questi lì li hanno visto e stanno venendo verso di voi. Te l'avevo detto. Io sei un idiota! Te l'avevo detto io. Via, corriamo. Te l'avevo detto, ce l'avevamo visto. Vai, correte più veloci di loro. Mai nella vita sei. Io lo copro. La copro. E due o. Bilico, ho fatto 19 dopo il bilico. Io la copro. Vai, bilico. Loro fanno 24. Andiamo dentro, vado a fare. Fai schifo, cazzo. Madonna. Aspetta, allora, 32, quindi. 35. Vai, te, Lisbeth. Ho fatto 8. Ieri sale con la città? Sì. La copro. Bene. 4. Copro, metto la copertura. 12. E 1, 13. C'era. 13. Te sei su. E io ho fatto. Ok, tu riesci a distanziarli. Voi vi arrivano addosso nel prossimo turno. Vedete, tra l'altro, questi loro hanno sulla schiena degli ammassi di tela. Anche loro non capisci bene che cazzo ci abbiano. Uno di loro sembra ci abbia un barile sulla schiena. Vedete, sono nani, tutti pesantemente armati con armi da fuoco, belle e ignoranti. E vi saranno addosso nel prossimo turno. Non le strano, li ha colpiti. No, no, manco per il cazzo. Ma scusa, ma io avevo comunque a piedi, questi erano tipo. Sì, 200 metri. Ho capito. Erano meno il culo lupo di quello che credevate. Cioè, no, nel senso, era lì. Te gli ha tirato la palestrata. Frick, ma io fra che non gliela tirare a un gruppo di persone quando noi siamo in due. Ma io credo mia vedesse. Certo. Non mi hai il punto. Questo personaggio sembra una persona che è stupida di rastro. Tu. Nemico, io sparo! No, alleluia! Quanto hai? 80! No! Cazzo, c'hai... Dai, usa anche l'altro numero, va bene. Voi vi attaccano al prossimo turno, voi due, vabbè, te li vedi, vi fa cenno, nel prossimo turno vi incontrate, quindi saltiamo direttamente al prossimo turno, ve le danno. Vabbè, ma che ve le danno, vedete, uno di questi si erge, praticamente si appoggia su uno sperone di roccia, punta il fucile e vi spara. Ci sono speroni di roccia intorno a me? È pieno di speroni di roccia. E io mi infilo dietro uno sperone di roccia. Io mi riparo dietro uno sperone di roccia. Ok. Boom, ti sparano. Che è destrezza, agilità? Ecco, aspetta. Fammi pensare. La loro difficoltà è 15. Quello che fate voi si somma la loro difficoltà. La loro difficoltà è 10. Perché se quello che fate voi si somma la loro difficoltà. Cosa vado io? Cosa faccio? Non lo faccio. Un fantastico 7. 1! 19! Oh! Esplode in mano e gli scoppia il barile. No, fanno da sole. Guarda, tira. Se fai, io ho fatto 19. Se fai tra 1 e 5, è quello che il barile gli scoppia. Merda, 17. Vado, 17. Capo, cazzi tua. Tanto anche volavo di sotto. Va bene, io comunque prima avevo fatto 7 più agilità. Guarda, hanno anche fallito i test di morale. Non vi inseguono. Potete, avete un turno per dargli la via. Dai, fate più di 10. 18. 11! Infatti si era lì, si torna giù, poi siete boom. No, non importa. Vi riunite nel tempo di 5-10 minuti di scalata. Immaginatevi di essere sudati, stanchi, sfiniti, sudati e stanchi. E io metto una mano sulla borraccia. Infatti guarda, due, no, neanche un po' in quota, quindi c'è l'ossigeno e comincia a essere... Quasi un po' rare. No, io sono proprio disteso a terra. Cioè, così. Hai angelo proprio. Sai, hai i limitari di un piccolo bosco in cui si è infilato Body sopra di voi. Forza. Io faccio questa cosa assurda. No, inizio a usare l'intorno per vedere se trovo l'odore. Un odore che non è di bosco, ma è di metallo per le. Per seguirlo. Sì. Com'è l'altra birra? Vai, è difficile. Tranquillo, 19. È la via è quella. No, no, ma lo sì. C'hai un'ottima. Beh. Prendo Lisbeth in collo, sì, e Lisbeth. Aspetta, mi metto quattro zampe metto e prendo inizio. Di in palo, sì. Fagli scrivere l'azione, dai. Mi metto a quattro zampe e inizio a annusare in terra. Tastare. E non vedo un cazzo. Batto una carriata contro un legno. No, ma non sei così cieco. Aspetta. No, che sto guardando non in sei, terra. Cioè, hai la visione che può avere un cane. Esatto. Okay. No, soltanto guardando in terra. Non vedo il palo, no, il palo, l'albero, ci sbatto contro e poi prendo il via. Ok. Diamo di. Lei sta facendo tipo lucertola delle esatto. Dobbiamo battere. Agmar, abbozzala. Agmar. Agmar. Detto bene. Lo sai, lo sai che i tizi che sto seguendo di... che giocano a Pathfinder c'è un personaggio che si chiama Agmar? Stai scherzando? Sì. Copyright, brava! Ci sparano! Copyright! E sto prendendo un rispetto in spalla. Mi puoi mettere giù, non ho bisogno! Scusa! Dai, su, riuscite a entrare nel bosco e immaginatevi di essere in un bosco di alberi raggrinziti, fitto, pieno di rovi che crescono su queste montagne. Ovviamente sono ulivi anche questi, che hanno quel cazzo di rametti che fanno un male della madonna. Sempre stai sul cazzo, meglio lì. Comunque, male della madonna. Sono fitti, cresciuti l'uno sull'altro. Probabilmente perché forse c'è qualche fonte d'acqua in questo posto, lo sapete. Lei è avanti a voi e vi fa strada in questo cazzo di bosco. Sai, sai, infatti a bruciarlo lì per questo. Era un telo enorme. No, cazzo, c'hanno le spine gli olivi. Tutti gli spinati. A un certo punto fatemi tutti un tiro di osservare. Ti vuoi fare 3 stum 19 6 e te chiaramente senti che c'è. Allora, a parte che sulla tua strada noti altri di questi sassi leggermente luminescenti, a un certo punto hai la strana sensazione che sulla vostra destra ci sia qualcosa. Ti giri e vedi uno degli alberi. Io li avverto con un sonoro. E scappo. No, la sai, non era così, era. Sì, lo so, è uno e basta. Non è prolungato, okay. È solo. Salgo su un albero di lucerto, li faccio il giro. No, è sulla vostra destra, vi sta attaccando. Cosa fate? Merda! Vedete, una. Sembra un. Che quest'albero metta fuori due grosse manone. Tutte belle. Ma io indietreggio e lascio se ne occupo. Prendo un sasso luminescente e glielo lancio. Ok, e tiri il sasso, indietreggi. Scappi. Okay. Che strategia. Lo infilzo. Grande, il tank della situazione. Sempre. A casa mia sei infilzi. Lanciare lei. Morwen, ragazzi, e Shiloh, incredibile. Ma in realtà, aspetta, io indietreggio mettendomi schiena a uno dei primi alberi. E anche quello fa. E anche quello è uno. E quello che spero per dare soddisfazione al master. Vai. No, io indietreggio per poi essere a distanza giusta per tirare. 19 indietreggiare. Tirare per indietreggio in maniera molto... No, vabbè, dai, indietreggio mi filo sopra un albero e tiro fuori la palestra. Va bene, sì, ti metti proprio, sei con lei, ti metti dietro un albero, sì, con la sensazione che questo dovrebbe mangiarvi. Cosa avete fatto? 7, 25. Io mi devo filare per indietreggiare. Era 19. No, vabbè, volevo filare sopra un albero. Avevi tirato senza nessuno che l'abbia. Io non faccio. Io non ve lo volevo dire. Anzi, io sono indietreggiata piano, terrorizzata, così, sperando di inciampare quasi, perché sto camminando all'indietro. Sto inciampare, poi hai sotto con le mani e mi metti appoggiata. E dicevo, nel mentre te riesci a spostarti di lato, vedere la scena di questa fare sboom, chiappa Shiloh così con la manona, inizia a stringerlo facendoti di quanto hai fatto? 10 danni. E te, te gli ti sposti di fianco e che ti picca. Gli dà una piccata. A piccata qui, sempre punto al collo. Tum. A parte alto sarà minimo. No, vedi che è un albero e non ha fratture. No, cioè, bene, no, semplicemente hai presente albero, sì. Rammettoni che gli fanno le braccia in avanti. Allora in questo modo fai due rami. Fammi finire il dischi della cosa, però. E in mezzo al tronco c'è qualcosa che sembra un po' una faccia, però sembra un misto di nodi che sorridono, sembrano dei denti brutti. E diciamo allora i due rami qui almeno lasciano lei, almeno che. Ok, quindi gli attacchi il braccio. Io ho la cosa va più bene. Stupida del mondo a fare adesso. Va bene. Io sto ragionando sull'utilità di tirare un dardo di balestra a un albero. A niente. No. Infatti. No, ragazzi, io lavoro. La più stupida della mia vita. Quanto hai fatto? 26. Perché c'era il danno del picca. Arrotondare le cose. Io accendo una torcia. Gli do fuoco. Siamo in mezzo alla fa aspetto. Fammi un tiro di sopravvivenza. Non so. Di Bear Grylls. 7. Dove sono? Mamma mia, ci arrivo da tutelare. Perché le torce sono a me. Lisbeth, pigliami la torcia. Cosa è più probabile che tu abbia? Del dei panni, della pesce. Che, come si dice, della pesce, è quello volevo. Degli stracci, magari la torcia, non è che ti porti dietro. L'acciarino volevo. Sì, vabbè. Vale. Ok. E ne bevo una punta di balestra. Aspettate. Dicevo, tu colpisci il braccio di questo affare e lui fa sotto i 10, no, non lo lascia. Il prossimo turno ti farà altro del male. Nel mentre... Io ho una runa del fuoco attaccata alla schiena. Eh sì, però sa, me l'è sigillata per far funzionare una tutelare. Non è quindi che... dici, non riesco a farlo esplodere. No, magari se lui ti stringe abbastanza c'è una deflagrazione che cancella... L'esistenza. Una rana che schiaccia Eskos e poi non se ne parla più di niente. Chiudiamo, cambiamo ambientazione. Ok, allora vediamo. No, vedete che ce l'hai studio. Cioè, no, a me è come... Aspetta. Ora esplodo. Cioè, è una cosa delicata quella che avete sulla schiena. Comunque. È protetta da un affare di metallo, però. Va bene, io ho appena pensato. Adesso esplodo. No, aspetta, no. Meno male che il fucile esploso davanti, se ti esplodeva dietro, volati. Razzo cinese. Comunque, voi fatemi un tiro di percezione, osservare, no, riflessi, qualcosa. Minchia, 3. 4 e 3. Basta, vabbè, non vi accorgete di niente perché venite abbracciati dall'albero dietro in questo modo mentre vi ciancicate la pesce dalla mano a quell'altra. Vi abbracciati e venite. Siete Gianni e Pinotto. Ma anche perché si è animato anche questo. Sì, esattamente. Era ovvio. Era ovvio. Era quello che volevo. Prendete 12 danni a testa. Cristo di Dio. Bene. Danni, danni, fammi reagire. Cosa fai? C'ha le dita questo foglio. Figlio danni. Sì, sì. Figlio danni. Ci faccio. E allora va bene, farò questo. Sta stringendo tipo... Scivolo giù. Lo piglio così. Ok. Salto. Mi salto in testa. Lo... Metto... Vado di forza a tentare di aprirlo. Ok, vai. E anche lui. Qui c'ha più 2. Anch'io. 4, 6. Ah, è 19-21. Ma io sono una forza di caverna. A un certo punto gli si rompe proprio. No, vedi che proprio. Cioè, la forza ce l'avrebbe. Che i rami non sono fatti. Non sono fatti cosa, quindi, si spezza. Gli spezzi un dito. Riesce a tirarti fuori. Ah, struzza. Gli ha fatto anche danni. Tra l'altro. Bellissimo. Ho fatto 21 totale. Fa un 21 meno 4. Fa 17. Attenzione. Mandi. Vabbè. Okay, la cifra cosa... approssimativa. Ma se picchio dei legno. Lui perde l'azione perché gli hai spezzato la mano. Puoi agire anche te contro di lui. Vado alla testa, a sto punto e finiamo. Ok, fammi un tiro di osservare. Hai 15? 3. 3, vabbè, non ti accorgi assolutamente di niente. Va. Sta succedendo qualcosa. Fai danni puri. 3. Fallisci. Perché almeno 5 dovevi fare. 4. No, no, aspetta. Ma stai usando scusa, 3, sì. 3 di lancia e più 1 di danno. Ah, allora, senti, allora gli hai fatto 7 cazzo di danni. E vedi anche in un occhio sta a fare. C'ha una delle pietre che ci sono per te. Me l'ho detto, sono le pietre! Okay. E le rompe, fa lo stesso suono di deflagrazione di prima. Dell'altra fare che puff, fa una cosa del genere. E l'albero si ferma. Bene. Lasciandovi. Nel mentre. Io, ma come mi... ci ha preso così? Così. Io mi ci rimasto. Tipo, mi sta stringendo in questo modo. Bene, io. E poi non è che c'ha. Fatemi parlare, non è che c'ha proprio delle braccia, c'ha dei grossi rami e vi stanno stringendo a sì, sé. Ma infatti... Tra l'altro c'ha anche la faccia dietro di voi e ne sentite il fiato sul collo. Una cosa tipo... Io tento di scivolare via fra... Vai, cosa. Destrezza. E guarda con quanta destrezza si te cosa fai? Esprime. Aspetta, buono. Tento di tirarmi la pistola e di alzare a questa distanza e sparare di bomba. Facciamo la finita. Vai. Tiro 15 e destrezza 5 più 2 di forza 7. 16. 16. Va bene. Te ti sfili senza troppi problemi, spezzando anche qualche ramo. Te gli spari proprio nel sasso dell'occhio di questa affare che fa cra. Si ferma. Praticamente io casco un braccio a un nano. Che ma perché bisogna sparare il culo a qualcuno? No, vedi, effettivamente. Ci sanno proteggere, no? Anzi, no, fammi osservare. Ah. 5 per dire. Io riseguo la traccia. Mio. No, no, ce l'hai, la traccia ce l'hai, è chiara. Cioè lui non... Posso tirare per prendere a usare? Sì, non ce l'hai? No, ancora no. Tiravo di dado puro. Vai, hai 10. 9, ovviamente. Dai, hai preso, mi sono rotto il cazzo. Tanto stanno io riserve, non mi frega niente. Contro qualunque regola. Che ti sei tra l'altro autocreato. Beh, c'è il coso per ricaricare. C'è l'affarino, tipo. Sì, ho speed loader, vai, colpa un colpo. No. Apri il tamburo, è il colpo. Chiudo, metto un fondino. Vabbè. Bene. Cosa fate? Io continuo a seguire l'odore senza assicurarmi che loro mi guardo intorno intanto. Fammi tiro osservare. Anch'io seguo. Ok. Anch'io seguo lei. Ok. Tre, no? Hai fatto bene, su un calzone porche su quello importanti. Va bene. E niente, non serve un cazzo. Uscite dopo poco dal bosco e vi rendete conto che state entrando nella nebbia. Ok? Accendo. Si spenge. Utile come... No, vabbè, effettivamente un po' fa. Fai anche vedere, lo sai. A un certo punto... Chi è l'ultimo della fila? Mi sa io che... Sì, sei rimasto indietro a... A un certo punto fammi un tiro d'agilità. Qualcosa ti prende per una cinghia dello zaino e ti tira di sotto. 13, 14 Ah! 15. Vedete Morwen sparire dietro i colori della nebbia. Giro la torcia. Giri la torcia, c'è la nebbia. Fammi un tiro scusami, di svenimento. C'è anche resistenza al dolore. Resistenza al dolore, diciamo, vabbè, non svieni, vedi, c'hai un nano, t'ha appena tirato giù così e ti ha dato un calcio di un fucile nella testa, facendoci 10 danni e un bernoccolo che ti ricorderai per la vita. Io ho la picca a mano in questo momento, ce l'ho sempre avuto. Vabbè, sì, hai anche fatto 18, sì che sei anche pronto a dargliene. È stonco, sì. No, no, c'è cioè, proprio sì, lui, guarda, lui ti ha tirato, te ti sì. sei girato, quindi ti ha tirato così, te ti a sei faccio. Girata, adesso ce l'avevo in faccia, lui ti ha dato il calcio del fucile in bocca così. Io lo scudo dove l'avrò lasciato giù. Ce l'hai attaccato dietro. Non l'ho attaccato dietro, no. Allora no, voi ci avete, aspettate, sì. Allora le armi ve le siete portate. Sì, sì. La tuta alare vi permette di portare le cose sui fianchi, quindi un peltate ci sta qui. Sì, infatti. E la lancia te la sei portata in mano, sì. Semplicemente, oppure no, c'hai qualcosa... Ce l'avevo dietro, ma me la sono un po'... Vabbè, sì, hai combattuto finora. Allora, sarebbe, cioè, non è che la lancia tu le estrai così. No, lo so, okay. Non c'ho un po' di più. C'ha delle fibbie e te le allarghi e ti... Sì, infatti. Però non è, ce l'hai sempre proprio in mano, diciamo. Sì. Ha combattuto fino a 5 secondi fa. La parte visto alta gliela schianto in faccia. Mi pare giusto, vai. 11, 14. Lui fa 9 e 2, 11. 14 di forza e 18, quindi. No, no, non 14 di forza, 14 di usare lancia. 14. E che c'entra forza? Ho sbagliato, ho detto forza, okay. Volevo dire lancia. No, no, se no io capisco se... Volevo dire lancia, 14. Va bene. Lui non si aspettava e tu sopra, cioè, guardate, e si becca una lanciata nella buzza, nella pancia. Ma la nebbia dà una visibilità di un metro. Di 20 centimetri. 4 centimetri, no, vedete a 3-4 metri. Ok. Sentite urlare Morwen, nani di merda. Nani di merda, fra! Va bene, il test di volontà per 15, non girarsi e venire ad aiutare. Per non, Mi ho salvato. Due, lo fallisco vicino. Morwen! C'hai un grosso nano che si sta arrampiando lì davanti a te e che ti sta per dare una pedata sulla mano. Bello. Cosa devo conferrare? Vabbè, però puoi spezzare la roccia. Combattimento a mani nude? Sì, anche su sì, a piedi nudi? Sì, no! Meno bilio. Meno 12. Ecco. Era meglio. No, bello. Cioè, questa scena lì. Ti appoggi il piede sulla roccia. La roccia si spezza. Lui si sposta e quindi si aggrappa all'altra mano. Te invece. Incredibile test, incredibile per aggrapparsi. Agilità, dai, 10. 9, dai, 10, sì, 9, cioè... 9 più 1, 10. Struta, ha pensato che aggrappi il classico stelo. Scusami, no, ma lui no. Lui vuole aggrappare. Anche a lui, bello. Ah, si è attaccato al suo piede. Bello. Vattene, la figa. Si è facendo puttana. Madonna, la mia con lui! Mi arrabbio piantandovi un graglio nella schiena. Così. No, è una mazzata perché ucciderei. Esatto. No, io no, metto la forza davanti in questa maniera e tengo la mano sulle volte. Ok, te stai andando avanti? No, io mi metto la schiena rivolta. Bravissima. A lui, almeno ci si copre, e inizio a ascoltare intorno per sentire qualsiasi rumore che si muove e dire dove mirare a lui. Bellissimo, vai, difficile 10. E 18 totale. Sono chiaramente di là. C'è chiaramente 8 nani lì sotto che ve ne stanno dando. Scusami, lui come è messo? Aggrappato con una mano? No, lui in questo momento aggrappato con tutte e due le mani. E il fucile dove l'ha messo? Così? No, c'aveva, non c'aveva il fucile, c'aveva scusa. E la sta tenendo così con la mano, per così. Capelli? Dai, c'hai treccione nani con lungo, gli arriva a metà culo. Il problema è che se lui si stacca io fa un volo di... 10-15 metri e atterri sui boschetto. Boschetto è la mia fantasia. No, usalo, io come tento trampolino. Di arrampiarmi usandolo. Cioè, di Sì, di arrampiarti su di lui. Su di lui. Destrezza. Destrezza, lui tenta di non volare. Sì, uno di lui fa tre, attenzione, quindi bello. Se ti arrampi sopra di lui, gli dai l'ultima pedata tirando di su e lui fa... Grande! Andiamo! Struzzo! È finito il bosco, e ti dicevo. Era quello con il barile! Non c'è verso, sennò ce l'aveva sulla schiena. Spera, torce c'è strago. Ma senti, senti le stick che fanno maledetto body! Anche le guardie del corpo hai adesso! Guardie del body! Come no? Non siamo guardie del... Ma andate a far culo, una di merda! Questi portano tutti i simboli della Legio Ferrata, tra l'altro, eh. Ah. Qual era la Legio Ferrata? Quella che sparava. Sì, con le armi da fuori. Quella non ci sono. Quella non ci sono, Cesar. Fatta da nani. Già. Quelli che hanno ucciso Cesar. Gli tira il libro e la Questo bravo. Brutti figli di puttana, di nani di merda. Bene. Vai. Mira, avrà un bonus adesso, gli ho detto. Sì, dai un più due. Soprattutto il problema è che non è difficile perché sono tutti là sotto. Il problema è che ci sono anche loro due. Ma mi piace sto personaggio. Ma tu che spari? Sei figli d'ammazzo. Spambio bono 3. Benissimo. 5. 5. Spullai 2 la pistola, sì, vero? Sì. 5, va bene. Ma dai, usa la cazzo di balestra. Fate meno di 5 becca uno di voi. Scusa, becca. Ma non noi ci deve tirare. Ma dai, no, sì. Ma 4. 17. Ti piglio la pistoletta di striscio. Sono 8 danni. Gli fai io 4 danni perché è di striscio. Giuro che ti uccido. Lo so che... Oh, l'ho preso! Ah, guardi me! Sono andato tra di loro! Questa scena è bellissima! Ah, come on! La nebbia... Mi conosce anche! Aspetta, aspetta, master, scusa, aspetta, perché io non sto capendo bene. Cioè, noi due siamo... Io mi sono appena tirato su, sono sotto un barco. Allora, ti rispiego. Sì, siete comunque su una grossa pendenza, tipo questa, ok? Ma non c'è però ci sono un sacco di rocce messe in questo modo, ok? Ma che vi creano piccoli spiazzi, ok? Cosa succede? In questo momento i nani sono intorno a uno di questi spiazzi, quasi in piano, alle quali si stavano arrampicando sopra. Voi siete arrivati da sopra e quando gli hai dato la pedata, lui era attaccato sotto una di queste lingue di roccia, tipo avete presente i funghi? Sì. Che simili a questa cosa qua, no? Lui stava arrampiando su quella. Ok, è volato di sotto da quella ed è caduto sulla parte precedente, che è appunto il boschetto, ok? Sì. In questo momento tu sei sopra, gli altri 7 nani... Gli altri... No, 6 nani! Perché... sono intorno aspettando di cazzottarmi. Stanno salendo, nel senso, anche loro sono... Cioè, non è che sono messi così bene. Tra l'altro, cioè, vedi, tutti hanno dei grossi occhialoni da... Da scalatore, barra da fabbro, barra da aviatore, quello che volete. Molto steampunk. Voi due siete praticamente nel mezzo, voi siete sulla zona di sopra, che non è una cosa così ampia, ma è più una serie di guglie che spuntano in maniera randomica. È difficilissimo descrivere perché ho fatto questa ambientazione, non potevo farlo fare in una piazza. Ma non importa. Non sarebbe stato così difficile. Tu continui a sparare, vado a riprendere. No, no, no, no, sentite tutti, chiaramente, soprattutto te, sentite un grosso odore di zolfo. Di acqua zolfo. Metto marcia acqua. Solfuri. Acqua. Sulfuri. Siamo sicuri sia acqua. Lo zolfo è infiammabile. Infiammaboli. Umido a bestia. Lo zolfo è infiammabile. Ma se umido non... Prendete conto della cosa. La nebbia è calda. Assaggio. Zolfo e... Vabbè, senti, tu continui a sparare e vado a riprendere io. Allora, aspetta. Ma con loro mi discute la nostra cosa. No, ragazzi, io non vi do un destro. Ma se no non c'è pezzo di informazione. Allora, 1, 2, 3, 4. Tutti insieme. Noi solo a dire, loro sono sotto di me, quindi. I nani sì. No, quelli rimasti adesso sono... Si stanno ampliando davanti a te. Cioè, salendo, hanno appena salito, immagina, dei ginocchiati, hanno appena scalato. Allora questa cosa non la scrivi. E so, praticamente davanti a te, ok? Cioè, sono più in alto di me. No. Allora, questo è, questa stanza è la lingua di roccia in cui siete. Sì. Loro sono appena saliti da qui, in questo modo, tipo sì. E c'è davanti, te sei lì davanti. Ah, ok. Ok? Per tutti i nostri telespettatori vi manderemo un video che rappresenta, vi farò un grafico. Non avevo capito. No, va bene, va bene. Vi farò una sorta di grafico. Allora, cosa fa? Allora, io mi acquatto come facevo prima e seguo i loro odori in modo tale che arrivo da lei, me la porto dietro, arrivo da lei, me la porto dietro e gli sposto dalla raggiazione sua. Così che lui becchi solo i nani. Non ce la farai mai, perché ti ci vuole tempo per scendere. A meno che tu non stia fermo un paio di turni. Te ci vuole un turno per scegliere. No, no, mentre lui spara. Ma va bene, si spara anche addosso a te. Perché io sto raso terra, sto io. È uguale. Va bene, ok. Però comunque ti metti. Va bene. Non ho ben capito. Ma certo, sono cerchi non quello che sparare alla cieca, nel senso proprio non è che spari alla cieca, non vedi, spari nella nebbia. Giusto, sì. Ok, te spari nella nebbia. Però con la palestra. Dovrebbe essere tipo il mio personaggio, colui che sparava nella nebbia. L'uomo che sussurrava gli spari nella nebbia. Vabbè, tiro fuori la palestra e ho paura che questa nebbia calda faccia esplodere il creato. Hai appena sparato? No, hai la sensazione contraria. Che sparo la palestra e esplode. No, allora, che l'aria umida e calda non sia esplosiva, sia tutt'altro. Anzi. Che ti bagni le polveri. Ah, spara la palestra. Mi pare. Aspetta. Aspetta. Ci sto pensando, perché quanti metri fra me e loro? Tre. Punto di 3 metri e peso. Io le sto prendendo da lui e da Nando. Quanti sono? 6. 6. Tutti pesantemente armati. Sì. E i nani si ritrovarono completamente nudi. Ma che cazzo? I nani si trovarono. Che cazzo di fobi? I nani si trovarono in fondo alla roccia. Hai un libro magico, scrivici sopra. Scrivici sopra. Uno di loro scivola sopra. Per dire, cioè, oppure non lo so, uno di loro. Tra me e loro c'è qualche sasso, c'è qualche grossa roccia. No, è pianto. No, è proprio pianto. C'è un albero secco da una parte. Gli va addosso e gli fa cattivo. Beh, te gliele dai comunque. Sì, io glielo dai, cercando di non ripigliare da dove penso mi abbia tirato lo stronzo. Fidati, sono cerchino a farti. Allora, prima spari te. Te ci arrivi nel prossimo turno senza nessun problema. Vai, spara e poi agisci. Va come palestra, guarda, eh. Questa è palestra, capito, ragazzi, sono più bravo da palestra. È imbilitissimo. Ah, ok. Dai, dai, aspetta, adesso. È vero. Facciamo che da sotto i 10 ti appollo di voi, dai. Ma ancora? Con sta storia. Uno. Ma tirai mi dato. 20! 20! 27! Va bene. Io ho fatto meno 5. Cosa faccio? No, allora, succede questo. Te ti pigli una palestra nella schiena. Te hai l'incantesimo, cioè hai tutto il tempo di scrivere quello che ti fa. Ma io ho preso la pistola. Le polveri dei nani. Ma te lo tirano in capo. Si bagnarono e esplosero. Così a caso, se si bagnano non esplosono. Ti prendi i suoi danni nella schiena. Sono... E non arrivi nel prossimo turno, ma rotoli di sotto tipo cane morto. Già. Facendo anche il suono. Tre danni. Come... Tre danni. Lo senti pesantemente il mio suono che non riesce a fare. Devo come imparare. Terra nel temporale. Ok. Ma se gli esplodevano mi farebbe piacere. Non sai la resistenza. Ma così non spareranno mai, cazzo, perché hanno le polvere. C'ho più 2. Quanto hai? Se esplodevano in faccia sono a 3 metri da loro. Esplodevano in faccia anche a me. È di 14. Sembra che la cosa sia, cioè, senti il potere del libro che fluisce. La penna che tra l'altro io sto proprio dicendo: sciocchi nani della legge ferrata, ho già fermato i vostri fucili una volta. Dove pensate di andare? Vedi uno di loro punta il fucile verso di te. In quel momento pensi: ci siamo. Cosa pensi? Cosa penseresti? Hai appena scritto una cosa sul libro che pensi abbia funzionato, ma potrebbe essere una grande cazzata. Vorrei rimettere l'anima a qualcuno se solo questo qualcuno esistesse. Cosa? Però non ho capito. Se ci fosse qualcuno a cui rimettere l'anima, ce la vorrei rimettere. Però rimettere l'anima a Dio. Dio, prenditi una della mia anima. Okay. Adesso che muoro. Ok, ora ho capito. Ma in realtà pensavo non spara. Funzionato. Cla, non spara, infatti. Aspetta, ho speso 14, 78. I due nani dovevano spararvi, perdono l'azione grazie al suo incantesimo. Ve l'ho detto. Te gliele dai a loro? Sì, dagliene. Sì, quattro, va bene. 9. No, hanno fatto più di te. Te ne fronteggi uno, uno con martello e uno scudo che è riuscito a tirarsi su, imbracciare lo scudo alla mano, il martello con quell'altra e in questo momento vi fronteggiate, non vi fate danni. Cioè te sei lì con il penta e la lancia e lui è lì con le cose stuttanta, vi siamo un po' fronteggiati. Ma alleati per andare a cercare buono. Loro sembrano molto organizzati e anche molto incazzati, cosa fate? Io mi aggiro furtiva a questo punto. Sentite tutti in questo momento. Sentite Dov'è? E vedete che sotto di voi passa una striscia di scritte. Ma cosa? Di, come di rune per terra che si illuminano per un attimo. Ma sono proprio nel suolo? Nella terra, esatto, nella roccia. Si illuminano per poi secondi passando sotto di voi. Tanto sono belle grosse. Bello, mi sono appena immaginata io stesa a terra e mi passano sotto la faccia. Sembrava la voce di Body, quella faccia. Non sapendo né leggere né scrivere, quasi quasi mi aggrappa. Come fai a avere un libro se non... Stupidi nani? Sì, certo. Arrivederci. Mettimi il libro se va. Scusa. No, io ho paura. Il mio terrore è che ora la montagna si animi come un unico gigantesco golem. Mi fa piacere. Mi fa piacere. E come Lisbeth pensa questo? L'importante è parlare. No, no, Lisbeth sta pensando questo. Per... Eccoci, vai. Io ho capito che se continuo a sprare a balestrare faccio peggio che meglio e seguo la striscia. Sì. No, la striscia non va in su, ma sembrava... In realtà te l'hai vista da sopra, infatti. Sì. Era larga circa 50 centimetri e sembrava fare... Forse te che eri un po' più in su l'hai vista meglio e tu non avevi nani, quindi stavi osservando. Sembra una grossa scritta che sia scritta sui crinali della montagna. Ah, ok, ok. Allora okay. No, seguo per andare verso la voce. Ok. Beh. No, ok, sì, la voce è più in su, quindi te sali. Voi gliele date scappare? Sento. I nani sono corazzai bene? Quindi no, sanno di metallo. Sì, i nani tra l'altro con il loro 18 più 3 di strategia si mettono praticamente a tartaruga. Uh-huh. A. Come cazzo si chiama? A testuggine. Con i loro scudi, ora non hanno gli scudi a testuggine, però comunque si mettono prima lì e si preparano a darvene. Ma io indietreggio, me ne fuggo. Fuggi? Che cazzo devo rimanere davanti sì, a sé? Sì, ma comunicati anche tra voi. Ah, fuggiamo! Io sono convinta di non vedere nessuno intorno a me. No, cioè, loro sono lì accanto a me? Sì, li vedi. Ora siete insieme, li vedi? Ma leviamoci dai cap, via! Questi ci vengono dietro, ci danno il culo comunque. Invece finora gli è riuscito di molto bene. Vai, lasciali. A me sì. Lasciali lì a fare la testuggine, sti imbecilli. Vai. Nel mentre loro sono lì che si organizzano. Ambar, vai di là, di sopra. Poi, tranquilla, no, ci ragazzi. Penso io. Ma fagli volare di sotto, ti prego. Puttanaio, no, la montagna non crolla. Però io comincio a parlarci, punto. Ma parlaci, intanto arriviamo un po' vicino. Nel frattempo Shani inizia a dare alitate all'aria sperando di riuscire a sputare fuoco, ma non riesce. Ti rendi conto che ci vorranno ancora svariati litri di viverna. Non abbiamo di sputare di viverna. No, va bene, allora facciamo così. Allora, sentitemi. Mi giro verso i nani. I vostri fucili non spareranno e continueranno a non farlo perché io l'ho scritto in questo libro. Se chiedeste a qualche comandante della Legio Ferrata che era a Adrian alcuni settimane, mesi, anni fa. Un mese fa. Sapreste che questo è già successo. Che la mia magia è più potente dei vostri cannoni, dei vostri fucili. Al che vi consiglio di girarvi e di andarvene. Non vogliamo Body, vogliamo i Body, ma non ci interessano i suoi soldi. Potrete tornare a cercarlo quando più vi piace. Non siamo con lui, non siamo le sue guardie del corpo. Ci serve solo il GD. Una cosa? E che? 8? Va bene, avevi un più 5 per questa fantastica orazione. Guardate, non mi sto prendendo per il culo. È scritto qui. Bellissimo, vai, un tiro di nani. Le polveri dei nani si bagnano come terra nel temporale. Quel bastardo ci deve un sacco di soldi. Voi due, che cosa credete che vi sia successo? Vi si sono bagnate le polveri. Signore, abbiamo sentito parlare di questa. Io sto continuando a correre in animo. Sono loro. Ho salvato la mia vita. Così, Adrian, perché i vostri volevano spararmi, nonostante anch'io sia stato in una regione, nella Legio Presidio. Io gli sto facendo la traduzione. I nani parlano. Pula. Ero a... Io gli sto traducendo in italiano tutto. Etate. Tutto quello che posso glielo traduco. Quando... Vabbè, quanto hai fatto? 13, vabbè, ti traduci tranquillamente tu. Il nano, tra l'altro, è una delle lingue più facili. Allora gli traduco. Quando l'esercito grigio. Cioè, dove comune il prendersi... nanimo è la lingua più facile. Bene, ciao. Cosa stai dicendo? Allora, ragazzi... No, sto facendo una puttanaia su quello aetate. Vedi che allora te la cosa che senti è uno di loro che fa: questi sono quelli ricercati, loro hanno fatto fuori il vecchio generale Ambradar. Tua madre l'ha fatto fuori. Ah sì? Ma questo non lo traduco. Andiamo a vedere lo stesso, vai tranquillo. Aspetta. Con Ambradar vi fu un malinteso. Aspetta, faccio dirti le cose. Vedi che però un altro di loro gli fa: noi ci deve un sacco di soldi, voi perché lo volete? Non intralciateci, dobbiamo riprenderci ciò che è nostro! Siete voi che state intralciando noi! Perché avete addosso le nostre rune? Ce le ha rubate! E che lo sapevamo noi? Cioè, che sapevamo? Così... Erano sulle sue... Rendetecele! Alari! Tieni! Io gli lancio la tua. Mi la fa venire spogli e le... E no, sono pistina sotto, grazie. E come ce ne andiamo? A parte il pelle basso, ci vuole sperare minuti. No, me la levo. L'opzione di Lisbeth non è... Vero. Che cosa? Cosa? Che hai detto, come Lisbeth? Ce ne andiamo poi se gli tiri... esatto. Si rivela tutta la... No, te la do, scherzo. Le vostre rune potete rifarle. Non, è, non sono quelle l'importante, orsù. Quel bastardo ha fatto saltare le nostre fucine! E quello lo sappiamo, ma ti posso dire una cosa? Dov'è questo body? È un coglione, io non lo conosco di persona, ma ho la discreta impressione sia un coglione. 20, 38, attenzione! Noi lo conosciamo bene, invece! E non è per niente un coglione, è piuttosto un furbacchione, ladro e menzognero! Lui... ci ha promesso un sacco di cose che non ha mai completato e la nostra bontà troppo spesso gli ha concesso soldi, finanziamenti, denaro e le nostre cazzo di rune. E poi quel bastardo, come stavo dicendo, ha fatto esplodere le nostre cazzo di fucine, figlio di puttana. E ora se non vi levate di mezzo, vi uccidiamo tutti e poi uccidiamo anche quel bastardo. Scusami, e te ti sei fidato di un bugiardo per quale motivo? Perché il nostro precedente capo era un deficiente! No. Adesso comando io! E questo attacco! Dovrebbe essere colpa mia! Ok, bene. Ve ne andate, per favore. Sì, e bevo. E vi cagano. Sto bevendo un sorso di viverna, mentre faccio loro, voi andate. E io mi sposto. Tu vedrai, sono rotto anche il cazzo. Mi tolgo di culo. Salve allora, viverna. Aspettate, aspettate. I nani vi stanno caricando. Tu bevi il sorso di viverna e li salti addosso. Te ne stai... La missione è body. Sì, aspetta. Mentre te senti tutta questa omelia di sottofondo, arrivi. Te pensi di trovare l'ennesima roccia e invece fai che cazzo? E metto un piede nell'acqua bollente. No, sì. Ma c'è acqua bollente da tutte le parti. Vedi? Si dirada un po' la nebbia e c'è praticamente un lago completamente giallognolo con dei grossi geyser. E sul bordo di questo lago, più avanti, c'è Body che sta montando una vela su quella che sembra essere, appunto, una tavola da surf, ma diciamo una punta di lancia è più fantasy. Sta montando una vela più avanti a te. Aspetta, no, aspetta, questo è quello che vedi mentre c'è l'omelia sottofondo. Ah, ok. Comunque, il riassunto della serata, te cosa hai fatto? Io, appunto, le ci sto. Ezechiele, la valle del signore. 22-17. Ho fatto prima i personaggi sempre per farmi divertire un po'. No, bello, no, mi guarda. È tipo le Iene. Ok. Vabbè. Cioè, davanti a te un lago pieno di geyser, comunque. Questo è ottimo. Benissimo. No. Immagini la nebbia venga da lì. No, certo. Immagini oltretutto che siete saliti parecchio. Siete molto in quota. E, probabilmente dentro la parte non si vede laggiù. Sì. Ok? Nel mentre, loro vi stanno caricando. Te bevi la viverna. Io mi levo dal cazzo. E ti sposti. Do una mano a lei. No, ti devi togliere. Io te mangio. Io appena posso. Vabbè, ti stacco un braccio. Ti do... Ma vabbè, tanto devo tirare. Vabbè, ma non è che... cioè, una fila buona. Dipende da che tiro faccio di controllo. Ti ho già belle dato un paio. Vabbè, lo stesso. Ti conosco, sono da due in faccia, ero lì davanti. Suo rischio, sì. Dai. Niente, vi caricano. Loro sono 6, quindi hanno la carica, hanno più 6 di carica perché collaborano. Io ho per 2 ogni modificatore. Bene, tiro prima di controllo. Vai. E 20. Ne puoi bere 2 se vuoi, con cioè rimani sana di mente. Magari lo faccio per 5. Cioè, se vedo che non funziona. Chi sono io? Tua madre. No, cioè non esiste in questo momento. Cioè, l'azione è lei prende proprio la, come si dice, la fiasca. Così se la guardi c'è proprio la sgorata di sangue di viverna. Io tra l'altro lo immagino viola. No, è più colorato in realtà, cambia colore un po' quando io tipo la guardo, faccio così. Se l'asciugo così e vedi che si sta preparando a saltare addosso. Io la guardo, gli faccio così e gli dico loro. Proprio vado un bagno. Non ti considera nemmeno lei. No, non ti fa di strisce. Lei anche. Ok. Io mi levo dal cazzo. Va bene, ti tiri indietro e ti arrampichi sopra, suppongo. Sì. Vai, dategliene. Bene, quello davanti a me. No, è una testuggine. Ok, testuggine. Loro tirano non più 6 e te le dai come se loro fossero lunghe. Hanno arme. Hanno armi lunghe tipo lancia? No, hanno tutti armi corte. Bene. Vado contro il primo, lo prendo dallo scudo e lo lancio. Bellissimo. Te io di ficca a sfondarli. Perfetto, tra uno scudo e l'altro. 8 più 6. Ehi, oh, cioè, devo fare il calcolo. 18 totale. 26. Allora, allora hanno fatto schifo perché hanno fatto 14. Voi avete, quanto avete fatto? 29. 18. Vabbè, te ne hai trapassato uno, chiaramente. E sfrutto. Aspetta, no, non l'hai volato di sotto. Vediamo. Se ne hai trapassato uno, gli fai anche danni a sanguinamento. Perché fa 20, se ne frega. Quindi hai fatto 30 danni sì, totali. Quindi. Allora, questo era morto. Mandi a. So quanto, non so fare i calcoli. Te quanto hai fatto? Io ho fatto 18 totale per volarne uno di sotto. Cioè, lo prendo dallo scudo e lo lancio verso il dirupo. Allora, no, succede questo. Te gli hai rotto la formazione. Ne hai preso uno, l'hai portato sul dirupo. Lui ha piantato le gambe così. Praticamente ora gli stai tenendo la testa in questo modo. E no, se hai più voglia di fare, morde la faccia. Bello, praticamente la testuggine è venuta avanti. Lei ne ha bloccato uno. Sì. Quindi la testuggine... No, no, lei ha bloccato quello sul lato. Che comunque sono sei, che si sono messi 3 e 3. Mm-hmm. Gli hai smontato uno sul lato. Uno l'hai trafitto te in mezzo. E gli altri 4 si sono praticamente scomposti e cagati in mano. Quindi... Ora loro fanno un test per rimanere organizzati, lo falliscono, quindi agiscono divisi. Tu raggiungi lui nel prossimo turno. Bene. Vai. Azzanna al collo. In questo momento, cioè, lo te mangio. Lo stai tenendo tipo sì. Lo mangio, molto succede. Ok, lui tenta di darti una testata. Sì, vieni. Vieni, vieni, non vieni. Lui lo sa, mia, c'hai anche la tutina alare brutta. No, c'ho il coso, c'ho l'elmo. Sì, ma c'hai da talare, lei sì, non te lo può essere portato dietro. Hai ragione. Vabbè, io gli tiro una cazzata di quelle assurde. Sì. Faccio 17 più di forza. Fa 13. Forza ci metto? Sì. Ti tiro una craniata? No, ah, te, anche te gli tiro una craniata? Sì, sì, allora, con le corna. Forza, 21. Fatti una testa. Senti il suo naso che si rompe e lui... Lo lascio. Ah! E passo a quello accanto. Aspetta. Sì, cazzo. Te... È ancora vivo, sto no, mia... te hai tirato fuori il lancio da questo e sei ritratto indietro e ce n'è un altro che ti si sta fronteggiando. Questo c'ha un fucile con in mezzo... La baionetta. Non la baionetta, praticamente sembra presente un falcione. Sì, ecco, attaccato sotto lungo così, lungo la... 30 centimetri. La picca c'ho io, c'ho una spoleale. E lo usa tipo l'ala, tipo schifo. C'ho la picca che c'aveva tipo le ali, sì, laterali. Passargliela tra alla falce, portargliela via... Alla falce? Sì, lui c'ha questa cosa davanti, tipo baionetta. Sì, sì. Quindi spostarglielo in alto e usare la stessa forza con cui glielo spostate o buttarlo sotto o spostarmelo indietro. Lo puoi fare, sì, se ci riesci. Sì, praticamente gli fai un colpo così, sì, spum. Sì. Bello. 19. Lui fa 21. 14. 23, poveri nani. 23, ho capito, io più che digni ne levavi dai cazzi a me. No, mi ha diventato sapere andare a finire così. Quanto ha fatto? 23. Mi dispiace aver messo lì per culo. Ma sì, ma master di oggi. Master di oggi non ti sanno più. Ma sì, a cagare. Due vecchietti, devo in cima alla montagna. Mi scuso, ai miei tempi. Master. Vai, l'hai mollato. Loro fanno un... Lascio andare. Fuggi! No, che cazzo, dove credi di allora, andare? Gli altri... Salto addosso al primo. Ok, fammi un tiro di agilità. E 16... No, scusa. 5 per 2 fa 10, 21. Te subisci danni a turno. Sì, me li sto togliendo. Li stai togliendo. 21. Te salti, sembra... Tanto c'hai anche la fuga, si chiama fu. Salti in testa uno, lo chiudi tipo così, tipo vampiro, da dietro, e gli mordi mangio il collo e gli fai di 20 danni. 10, moschi. Vabbè, insomma, era quello che gli avevi alzato la baionetta a te. Te vedi che sono in rotta, stanno scappando. E io li sto seguendo, quindi... Io mi fermo. Io ho fatto un guinzaglio. Sì, lei è capace, ti insegue fino a... Sì, Timbuktu. A porco. Comincio a salire, allora. Facciamo che faccio... Ah, mi lasci andare, bravo. Io attacco un altro. È vero. No. Io attacco un altro. Ciao! E 20! E 28, e pensate addosso a un altro, 28 più 38. Bello, da uno salti verso un altro e tenta di buttarti un tiro di fucile, fa cla e non spara. Idiota. Te gli arrivi in testa così, gli rompiti da sotto in mento, gli tiri su in mento, gli mordi la trachea e gliela stacchi. In un bagno di sangue. E giù un altro. E la testa praticamente lui fa e vola per i vecchi. Sì, ma tra l'altro pappa fritta molto più su. Dov'è che non so fermare lei? Non viene a me. Mi sfido di due altri? Eh? No, aspetta. Beh, lei, ecco, lei ha già vedo. Comunque fatto due salti di almeno 5-6 metri. Ma lei stosa la sta facendo mentre cascano il vuoto? No. No, proprio meno. Cioè, tra uno sperone di roccia e quell'altro, perché comunque c'aveva le tute, e come vi ho detto, non è che non funzionano, ma planano. Oh, ne vedo altri intorno a me? Ne sento altri? Ce n'hai altri due che sono lì. Che vai, dagliene! E uno, vai! Meno tre. Beh, no, te stai pensando da sull'altro, a un certo punto lo sperone di roccia stesso di te, scra! Si rompe! Vuoi un po' di altro così? Cosa fa? Tirarla su. Ma lei è distante da te, direi che non ti ha facilità per arrivare lì ai 15. Grande! Vabbè, e due, ce li fai. Fanculo! Ce la fai! La chiappi proprio così, cioè te proprio... La chiappi proprio così, fu! Per il bavero in questo modo, perché ti stai tenendo con la mano destra, chiappi per il bavero, e con la mano sinistra ti stai tenendo. La lancio su. Fammi finire! Stai tenendo un cazzo di albero sulla sinistra, lo so che non te frega nulla, ma stai tenendo a... Potevi sapere se nella tua mano si stanno infilando schegge di roccia o spine. Comunque, quello che hai appena sbozzato è lo il barile. Che ti scoppia. No, non esplode perché... Da bagnare con lui. Bene, vai su di corsa, fum, e mi ritiro. Va bene, fammi un tiro di controllo di quell'abilità. Sangue di verna. Hai 10? 9 più 3. Ok, 12. Ti rendi 12. Conto che lei non è un bersaglio da uccidere. Anzi, e che ti ha appena salvato. Oltretutto hai il sentore che il tuo obiettivo sia più in alto di te. Bene, allora, lei mi sta reggendo, ma io sono comunque contro la roccia. Rimasto un nano, 20. Dio buono. 27. Asciuga la polvere. No, prendi la pistola e fa pa! Mi piace, si spara! Dai! Che danno di merda! Io me lo immaginavo, tipo, tirare fuori la cartuccia che si era tenuta il giorno del compleanno di suo padre. Il giorno in cui stava ruolando la lui, questo momento, questa la arriva la pistola di questo era il suo tiro di questo è il suo tiro di morale per spaventarsi di lei. Cioè, nel senso, dire, ok, io non voglio essere ucciso da lei, qual è la soluzione migliore? Il 20 ha determinato una soluzione drastica. Cioè, no! Pow! Bello, mi piace. No, però almeno si è messo in ginocchio, facciamo una cosa. Proprio lì ha visto in faccia lei, ha fatto no, coi cazzo. È il fofilio di merda. È il fofilio. Il fofilo. È il fofilo di domanda, merda. Sotto di me, cioè se io punto i piedi c'è la roccia. No, stai tenendo a lei, c'è vuoto. Ok, la lancio su di forza. La lancio su di forza. Si lancio qui attaccato. Io posso dire, se volete il posto di master, io lo cerco sempre. Se volete, oh, ascolta, noi siamo vecchietti, si mangia sempre, si fa il nostro. Mamma, va bene, io arrivo in cima. Siamo già arrivati, io sei in cima, non 50 minuti. Siamo aspetta, voglio finire, voglio risolvere questa azione qui, perché sennò. Vabbè, ti lancio. Io e ti lancio su direttamente di forza. E poi mi sì, va bene. Ok, 45 di forza per tirar su 80 kg di viverna incazzata e si divide. Con una mano. Capito, no, aspetta, ho fatto un tiro. Ma scusa, per... ma in realtà sono uno striccio. Dai, schifo. Vabbè, ho capito. 64. Vabbè, non ce la fai, anzi, stai. Oh, no, non posso lasciare. Sei un po' lì in quella situazione così. Non posso lasciare, manca. Shai, non sali. Te sali. Recepisci il sali. No, sali. Te l'ho detto. Sali. Te, più in alto c'è il tuo obiettivo, cioè te hai la sensazione lì, e inoltre capisci che lei non è aggressiva. Allora, mi stai dando per un braccio? Ti uso come pendolo e mi tiro su. Va bene. Ok. Al 15, se fai meno di 10, tiri sotto lei. Vai. 15 più 8. Fai un tiro di agilità se fai meno di 23. Due, non voglio il successo. Date in culo. No, vabbè. Lo fai, vaffanculo. Vabbè, lo fai. È anche bello in realtà, perché te ti usi in questo modo. Cioè, usi lei in questo modo. Usi lei in questo modo. Ti lanci in su, utilizzi la cosa come se fosse delle tue cazzo di ali. Vroom, e riesci a arrampiarti tipo drago e si arrampia a scivolare. Atterro a quattro zampe di nuovo e riparto. E riparti balzo. Tipo l'uccello delle Galapagos. Esatto. In su in questo modo. E ti tiro di agilità. E te riesci, cioè, a non cadere, cioè, anzi, sfrutti il suo movimento. La pistola punta sul coso. Tirarti su. Tirarti su e riniziare a arrabbiarti di corsa anche te in maniera meno allo certo alle Galapagos. Arrivano loro nel prossimo turno, quindi voi avete un turno in cima in cui vedete Body che sta finendo di montare l'Ember e sentite anche che fa ma c'hai il motore? Eh sì, E pensavo andasse a vela. No, c'ha il coso, c'ha proprio l'affare con la runona di fuoco, la vedete, tra l'altro probabilmente ne ha più di una. Sì, bellino. Oh, tipo, ci stupisce. No, glielo... No, io arrivo in cima di fuoco, Agmar, metti giù la pistola. Dai, mi sta per sparare. Puttana, Agmar, dai, non ci serve. Mastro di Chiavi! Abbiamo bisogno di te! Non siamo qui per i soldi! Ho completato una prova! Me ne mancano solo altre sei! Ah, non te ne andare! Sette. La montagna è passata! Sette. Noi abbiamo bisogno di te! Ah, deve arrivare su, ok. Osaka è il tuo maestro! Cosa credi di sapere del mio maestro? Io so tutto del tuo maestro, perché io sono... Vedi, sai solo come si chiama? Mentre vedi, è lui, mentre sta dicendo questa cosa, è salito, si è aggrappato, tipo, praticamente surf, sta facendo surf su questo affare, anzi... Windsurf. Su questo affare, che la vela si è completamente illuminata e fa lo stesso effetto che hanno le vostre tutelari. Senti che le vostre tute riniziano a funzionare in questo punto. Ottimo. Altra cosa, vedi che lui appunto sta rispondendo salendo su questa fase, vedi questa fase come se stesse caricando l'energia per partire. Va bene, puoi continuare a parlare. Non lo so, dimmi cosa fai. Continua a parlare mentre gli corri incontro. Ok, ed anche te, Elizabeth. Quanti metri ci sono fra noi e lui? 10 metri nell'acqua bollente. No, con la sua. Cioè, le corri senza. Gli volo intorno. Ok, quindi. Ok. Sì, pardon, colpa mia. Non si può camminare sul bordo. Camminare sull'acqua. Cioè sì, potresti aggirarlo, ma c'è la nebbia poi dietro di te. Quindi boh, è un po' tutto. Cioè, presente la nebbia per terra dove. Luca, tu non mi ha fatto arrivare lì. Non vedi bene. Perché ha fatto una strada leggermente diversa. Si è trovato un po' più avanti. Ah, ok. Capito? Siete ai bordi di un lago golfoso con il geyser. Sei il nuovo mastro di chiavi, questo è un tuo dovere! Non lo sarò mai finché non ho completato tutte le prove! La porta va aperta! Per aprire una porta serve una chiave! Cosa stai cianciando? Sto chiesto volare. Va bene, vai. Ti tira al 10 e arrivi prima che lui parta. No, scusa. 10. Va bene, comunque. Vabbè, te scatti in avanti, vedi che anche la tua cosa si deve caricare un attimo. Quindi. Ti dai un colpo. Come se stessi nuotando. Bello. In questo modo. Ti chiudi in avanti. Schizzi proprio di lui. Da un colpo di piede sull'affare. Lo impegna. Impenna un attimino e. Schizza in avanti, te tra l'altro ti prendi anche un po' di fiammata sua sulla faccia. Sono gli occhiali. Ci sono gli occhiali, dai. Io voglio. E partite. Loro due sono partiti all'inseguimento, te che fai? Boh, sono fuori di un tempo. Vabbè, sono proprio tempo. Fantastico, mosca. Io volevo la Ferrari. C'è chi ha la Ferrari e chi ha il ciao. No, mi butta anch'io a sto punto. Vai, anche te parti e gli inseguisi, quindi sei dietro Agmar. Cioè, li vediamo che partono. Noi arriviamo e loro partono. No, voi arrivate e vedete loro e... Allora gli bene, subito. Parti dietro. Ok, dai, fatemi un tiro per arrivare e partire in un... No, aspetta, te fammi un tiro per ricordarti come funziona sta cosa. Ah, giusto. Se lo superi esci anche dal... Aspetta, prima di tirare farti dire tutte le cose. Se lo superi esci dal berserk della viverna al 15 e è anche lo stesso tiro per partire. Se no tenti di correre tipo le lucertole sull'acqua. Sì, no. Correndo perché non sei una lucertola che corre sull'acqua e l'acqua è bollente. Al 15. Modificatore funziona, sì, quindi ottimo, 6. 20. Io bombo. E 36. Ancora, esci dallo stato di berserk. Però ti senti ancora una viverna, quindi ti ricordi come si fa a volare. Arrivi in cima, ti dai uno spinto alle gambe e parti dietro a loro. E lei si parte. Dai, moro. 6. Vabbè, 6 e 4, 10. Quindi vabbè, sì, bellissimo. Sembra un attimo uno squadrone. Sì, in realtà sei un po' più in linea. Però comunque sembra uno squadrone spinto all'inseguimento di questa affare. Vedete, bravo, 2-0, bravo, 2-0. E vedete, lui che sta poi di colonna sonora per favore, grazie. Lui che sta dribblando tra un geyser e l'altro. Sì, è la cosa che lo faccio anche. E lui dietro. Piu. No, in realtà mi sto cagando addosso, non la miscia. Tanto immagino. Prendo un geyser, prendo dei danni. muore lì, cambia personaggio. No, no, scherzo. Geyser di merda. Non so, l'acqua a 2000 gradi, Dio. E volevo dirvi, state dribblando tra un geyser e l'altro. Sì. Sentite lui che da davanti, sopra i rumori dei motori, sta cantando qualcosa. Ma non ci sta nulla, cioè non si può arrivare a nulla mentre si vuole. No, no, potete utilizzare tutto quello che volete. Perché come come vi ho detto loro prima, le tute vanno, soprattutto quando sono... Allora, se te le chiudi e ti metti in avanti, sparano, scattano, cioè hanno la propulsione in avanti. Questo ti permette di utilizzare gli oggetti in mano, ok? Se vuoi rallentare, le apri in questo modo e è un po' più complesso. Ovviamente c'è un tiro per utilizzare gli oggetti, però potete utilizzare quasi tutto quello che volete. Quindi prendo il cannone che ho a casa! cosa vi volevo dire? Che sentite, lui sta cantando sopra il rumore dei vostri propulsori, diciamo, e sopra il rumore dei geyser. E tu hai lingue, vero? Fammi un tiro di lingue per capire cosa sta cantando. Uno. Uno. Perfetto. Probabilmente un vecchio canto da taverna, il Rakven, che è una lingua morta. Sì, è una lingua morta. Risuscitata e poi morta di nuovo. Sì, è totalmente spiegato. Poi latino, questo è quello che mi sono dimenticato a tutti, grazie a Dio. E... No, povero latino. Comunque, cioè, l'inseguimento suo, fatemi un tiro per inseguire. Accelerazione. Dai. Sì. Lui ha più 5 a volare. 19. 22. E niente. 17 più 1, 19. Ok, tu lo superi, tu li sei accanto? Io ciao. Cosa hai fatto? Il moscone. No, ma io in realtà, vedendo che mi stanno suonando tutti, mi disinteresso della cosa. Cioè, gli rimango a vista e li vedo per non perdermi. Oh, e se lo piglieranno, queste cazzo di tutelari di merda. A me mi fa schifo farmi bagno e volare. E sta volando, okay, io ho fatto 9, sono accanto a lei, sì. Mi sta borbottando. Oh, senti, ma che mi curi, per favore? Ora no. E tipo, va bene, allora morirò. Ok. Già, cosa ho modificato di nuovo? Sì, infatti no. Ora, cioè, non è che adesso ti metti a guardare, ma mi sono modificato le unghie, non lo so. Verde. Va bene, no, pensavo sono evidente, vai. Ok, tu lo superi, riesci a metterti al fianco suo, passando tra un geyser e l'altro, ti metti al suo fianco, lo vedi che è lì attaccato, in questo modo un po' piegato per mantenere l'inclinazione della cosa, è una cosa bellissima, incredibile, tu gli sei praticamente dietro, cioè te gli stai, gli stai in scia tra le fiamme che escono dalle sue rune, del fuoco dietro, te rimani lì nel mezzo e con questa cosa potresti riuscire ad attaccarti al suo ember. Sì. Ok? Voglio. E cosa fai? Io sull'ember. Ok, provi ad attaccarti in questo momento. Sì. Dalla tua parte c'hai la vela. Vabbè, perfetto, cioè, attacca la vela. Sei da questa parte. E di quanti? In questa parte. Dai, ma attacca la vela. Ok. Che va bene? Allora vai, tirate. E lui fa sempre un tiro per tentare di evitarvi entrambi. Ma che vuoi? 5 a 17. Che cazzo vuoi tiri? Va, 10. 21. Ah. Ok, lui ha. Vedi, te dietro riesci ad accelerare e te lo manchi per un pelo perché lui ha fatto 2 più di te. Te ti si attacchi proprio sulla vela e. E prendi 10 danni perché questa cosa è bollente. Senti che è bollente. Sembra che come nelle tue ali stia scorrendo del potere della runa. Solo che su questa te vedi che. Che è tutta. Invece di essere a vene distorte, sembra fatto a esagoni. E sembra un tessuto molto più complesso di quello che te hai. Di ustioni. Però vedi che lo destabilizzi. Sono lui fa un tiro di controllo. 11 e 10. Ok, ce la fa. Chiude la vela con cosa? Si chiude la vela. Lui rimane praticamente solo sulla piattaforma. Fa un giro in questo modo. Ma cioè praticamente è costretto praticamente a rallentare tantissimo. Vai, voi due. Io e Lisbeth si raggiunge. No, ho fatto 3 di totale, vabbè. 15 io, anche contro voglia, sono una scheggia. Io gli sei dietro, sto per chiudere la scena. Ma io gli voglio tirare qua. Ancora. Tira di cosa? Non ce l'ho un io sasso. Apro un attimo le richiude della propulsione, cioè mi abbassa. La stai già usando, eh? Cioè, sì, ok. Cioè, la cosa di stringere le mani la sta. Ok, allora nulla. Ma abbasso in questa maniera, mi ritiro su e semplicemente voglio provare a abbracciarlo. Master, scusa. Cioè, è sotto di te in questo momento. Ah, è sotto? Sì, perché aspetta, ti rispiego cosa è successo. Perché lui per... lei ha dato il colpo e la vela. Lui per non perdere completamente il controllo e fare... ha chiuso la vela ed è rimasto da solo sulla tavola. Questo però cosa ha fatto? Ha fatto sì che la sua runa perdesse potenza. Certo. E lui abbia dovuto fare un 360 molto acrobatico per scendere. È 3-4 metri sotto di te. E tutto ciò è avvenuto in pochissimi secondi. Io rispetto a questo non sono rimasto. Te sei rimbalzata indietro. E c'hai, tra l'altro c'hai ustioni su tutte le parti del corpo. Sembra proprio che, come se ti fossi ustionata su una carica elettrica. Levo la propulsione, vado soltanto i picchiausi e provo a prendere. Ok, fammi anche un tiro di svenimento al 5, giusto per vedere. 12, vabbè, non svieni. Vai, per pigliarlo non troppo velocemente, questo levo la propulsione. Ok, non una bonus. Top. Quindi fa dado puro, te metti il bonus di volare, gli fa 18, attenzione. 19-20, puttana. Bellissimo. Ok, lui vedi che fa una mossa da maestro in cui si ristabilizza in questo modo, facendo anche proprio l'onda sull'acqua, così, indietro, e te gli arrivi praticamente da dietro, sbollo a bracci in questo modo, e ora sei attaccato a lui, dietro, lo stai tenendo così. Capisco. Non si scappa dai tuoi doveri, mastro richiamo. Io non capisco perché siamo ancora sull'acqua. Perché? Non ci siamo buttati giù dalla montagna. No, se voi siete, state andando comunque verso la montagna, solo che se prima faceva così, qui in cima c'è una parte che fa così e c'è un lago. E voi state andando in piano sul lago. Avanti e indietro? No, a diritto, è grosso. È immenso. È enorme. Ah, è un lago fantasy. Piace a me. Io pensavo se fosse sui bordi del lago ci si fosse buttati giù dalla montagna. No, no, no, state andando sempre verso l'interno della montagna, quindi verso la stessa direzione in cui siete partiti, solo che siete come su una delle... l'asta di roccia di prima, vi spiegavo, sono molto più grossa. È un lago fantasy. Quindi... No, no, no. Io inizio a salire. È grande. C'è possibilità. A salire di quota? Sì, salire di quota. Sì, sì. Vai. Voglia. Si sale. Voi in realtà, cioè, con il fatto che loro stanno andando veramente veloci. Me mi hanno distanziato, provo a recuperare salendo e vedendo dove sono. Te gli sei dietro praticamente di un turno, nel senso adesso vedi Morwen da una parte, te Lisbeth arrivi e vedi la scena di Angmar che lo abbraccia da dietro e praticamente siete sull'acqua voi. Ma siamo sulla sommità della montagna, è il punto più alto? No. Secondo te no, perché non avete salito abbastanza, perché questa cosa è decentemente enorme. Ah, io li seguo un po' così contro. Posi, ma non lo vedi perché c'è comunque tutto i vapori dei gas. Io lo seguo loro un po' contro voglia. Tipo per salvare lui in caso cascasse. Ok, l'hai preso. Che gli avevi detto? Non si sfugge ai doveri, mastro di chiavi. Questo è il mio dovere, idiota! Fa una mossa di taekwondo. Di taekwondo per buttarti in terra. E la festata dietro sulla nuca. Vai. Tu! Tu! Lui sviene. Dai, tiro di lotta. Te raccappano. Sono cascata gli occhiali, non ci vedo un cazzo. Io sono un avventuriero, prendo 18 spadate con gli occhiali. Ho tutto la luce. Guarda, la luce negli spigoli. Vabbè, è un problema quando sei senza occhiali e non vedi. Ma sai, mi direi qualcuno. Comunque, è di là, sono laggiù. Cioè, hard fantasy, allora, dove nel lanciare i dadi dalla foga perdi gli occhiali. Cioè, gliel'hai veramente dato. Non mi devi dare fuoco. Sono i due che ti trovano. Ho trovato il tappo e la perone. Sono neri. No, è che io non li stavo cercando. Diceva bam, Dio buono. Vai. Lui non ha bonus. Fa cagare a lottare. Fa 17. Fa 17. Bro, ti tira in avanti e te cia nell'acqua. No, io volo a prendere. Vai. 3. Cia. No, c'è nell'acqua e te. Oh no, sì, è certo. Ah no, è vero. Senta. Però in effetti rientra un attimo in campo la mia maldestria. Faccio tipo una mossa così, mi do una botta da sola e inizio a fare. Poi riprendo il controllo all'ultimo, ti passo sopra. No, allora, aspetta, tu sei nell'acqua. A quanti centilitri? Tu stai salendo e vedi questa. No, a parte no, sali e se vuoi superi la nebbia. Quanto fondo? Ma no, in realtà volevo salire per poi usare la forza di gravità, darmi ancora più spinta e... Ma scherza. Sì, è che, sai, perché loro sono praticamente fermi in questo turno, ma nel tempo che te sali e vai avanti... No, è il turno prima salivo, adesso mi... Sì, sì, ma io ti spiego, cioè non ci guadagni nulla, perché nel turno che te sali e vai avanti fai pari con l'andare a diritto, praticamente. Parla molto breve. Allora salvo. Contro legge della fisica, perché sarebbe ancora più svantaggiosa questa cosa. Ok, quindi stai salendo e basta? Sì. Ok. faccio un cazzo. Sono più vicino finalmente a questo. Te sei tra lei e loro, cioè fai conto che tra te e loro, loro tre ci sia 15 metri e lei ti sia dietro di 15 metri circa, che è un battito d'aria. L'ho visto momento. Che questo che cade, eh? Sì, sì, no, in realtà 15 metri no, c'è la nebbia, vedi, senti macello, senti c'hai allora accattali e continua ad andargli dietro a questo cercando di pigliarlo. Beh, tu però non sai, cioè i loro accattali, te non hai mia... Hai sentito nulla? Dell'acqua, mi sa che sono loro due. Io ormai Il pensiero è pessimismo, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Allora, fai un tiro, se fai meno di 10 ti prendi di 20 danni dall'acqua bollente. Cazzo, ti senti un Shiloh raccattali, non sai dove, né perché, né come. Ci provo. 10! Grande! 10! Riesci a tirarti su! Ah! Sì, sì, istintivamente. Ti sei tirato su. Lisbeth, c'hai lui e ti spunta praticamente davanti dalla. No, scherzo. Vabbè, se io all'ultimo è lo schizzo. Lo schizzo. Okay. Lo schizzo. Se hai un po' di caca, perché se cadi qui dentro ti rendi conto che forse l'inchiostro del tuo libro non è che stia molto bene. Via. Ti gira un po' il cazzo, ti stai oltre tutto dell'acqua. Sì, 16, lo capisco, inizio ad alzarmi anch'io. Okay. Va bene. Questo ciao, cazzo ci fai qui? Tu salendo, vedi qualcosa che sta arrivando da sud. Una nave. Fammi un tiro di osservare. Stai, che non ho svantaggiato, tra l'altro. Di 20 diviso 2 è al 10. Uno e mezzo. Cioè, una qualcosa laggiù, ma non vedo più nulla. Vabbè, mi avvicino. Va bene, sì. Davvero mio, per quale sono? Tra mezza giornata c'è il mio. Non ti avvicini, ti rendi conto che è distante. Tanto distante, cioè, l'unica cosa che capisci è c'è qualcosa laggiù, è molto distante. Il vento che odore porta, posso fare sta cosa? Che rumore sento? No, sopra un lago pieno di zolfo, secondo me, cioè, sì. Ok, allora mi metto così. Sì, se fai 30, c'è 30 di annusare, senti... Vabbè, posso usare ascoltare, sono delle vente. Ci sono la nave, c'è 30? 30 allora? 4 e 1, 5. Vedi Lisbeth spuntare 30 metri avanti a te dalla cosa tipo. Tossendo e sto alzando. Chi è quella? Che succede dall'acqua? Te sei accanto a lui, praticamente. In questo momento potete ripartire praticamente insieme. Vai, inseguitelo. Una grande strategia. 19 e 4. Lui fa 19, quindi 7 e 1. 22. Ok, te ti perdi, cioè scansi uno dei geyser. Te fai 22, però perché lui è comunque avanti. Quindi gli sei di nuovo in una situazione di prima. Lo stai praticamente fiancheggiando. Comunque. La vela è giù e su. Te, in questo momento, renditi conto che ti stai ricordando che cos'era volare. Sì, ed è una cosa che te hai fatto forse i primi giorni di vita e ti rendi conto. Che stai andando in questo modo anche perché te sei fatta per volare e ti stai dimenticando che questa cosa è esterna a te e ti sta piacendo. Sì, mi sto divertendo un sacco. Meno so. E in questo momento gli sei a fianco. Lui la vela di nuovo? No, la vela su di nuovo, che se no non ce la fa andare. Ma poi la vela non c'è tipo una trappiccio? No, lui c'ha il allora, intorno alla vela c'è un affare. E allora mi piglia quello di metallo. Sperando di non bruciare. No, è che l'avevi già fatto. Cioè no, io ero andata alla vela. Ah, ok. Non era andata a quello. Ok. Vabbè, a quello ci ha attaccato lui, sì, che te vedrai. Se no, cioè, aspetta, la tavola, che poi ha anche le alette ai lati. Nel nostro grafico. Esatto. Ma riattacca quella dall'altra parte. Se c'è lui in mezzo, mi fa. Ok. Tanto questa fare fa il rumore dal reattore nucleare. No, vai. Ci verranno i rumori. Lasciamo pensare a sperare al motore, poi dopo. Lui fa in tutto 4 ore. Esplode l'universo. Su, gli stai attaccato a quell'altra parte. Riesci anche a appoggiare i piedi sul bordo esterno di qua e a controbattergli la coda. Vediamo. Lui fa. Ok. Lui, su, chiude la vela. Su, e vi trovai faccia a faccia così. E poi lui dai, dai, dai, dai, cazzo. Involontario ma basso. Ok. Ma no, vabbè. Combattimenti alle pirate dei Caraibi gratuiti adesso. Cioè, ok. Lui fa così, si sbilancia. No. Così no. E te vieni sbalzare indietro. Lo vedi che sta precipitando. No, sta precipitando. Gli do dietro. Il moscone. Vai, fammi un tiro. Lui sta precipitando. Ma l'ho visto. 17! È lì! 17! L'ho preso! No, no, succede questo! Bello, bello, bello, mi guarda, sì! Lui stava precipitando, era 2 cm da terra, lui ce l'ha attaccato ai piedi, stava, beh, quindi stava facendo tipo... tipo così, te riesci a... boh! Praticamente placcarlo per aria, fa... una cosa del genere, fluttuata in aria in maniera inconvulsa e sconclusionata e... roccambolesca! Roccambolesca! Io sono così e li guardo. Non sente il no, no, voi due siete in quota, vedete, loro escono dalla nube in questo modo, girando. Sì, che sei sullo stallo, praticamente. Te lo hai abbracciato tipo così. Vabbè, tua moglie ti aspetta! Ho un dovere più importante di mia moglie! Tu! Grazie! Ho detto tua moglie ti aspetta! Invece no, vabbè, non l'ho fatto per tirargli le danni. No, vabbè, tua moglie ti aspetta, gli dà un meno uno sull'azione perché lui... No, cioè, non lo fa per tirargli le danni, lo fa per farlo stare zitto un attimo e farmi sentire cosa cazzo volevo dirgli. Ok, con il rumore del vento nelle orecchie, sì, il rumore cioè, delle... Perché lui gli dà una testa? Gli sta urlando. Sì, comunque lui fa 13. Ciao, ma una corda non ci l'ho. Certo ce l'ho. 13 ce l'ho. Lo sto stronzo. Certo, subito. 14 meno uno. E si fa. Uno. Meno uno. Meno 9. Lui sfrutta la tua testata per farti di nuovo una mossa di taekwondo. Io, buono! L'hai imparato ora, eh? E fa così e tra l'altro senti... State interrompendo la mia litania! Per quello. Mentre si sta lasciando così, proprio indietro, si precipitare per tornare verso il lago. Lo io del cento! Ma la voglia di venire così sparagli allo stomaco. Bone, sei a più di 100 metri Va bene, risiedi avanti comunque. Dai, ok, quindi ti rimetti all'inseguimento. Ci arrivi in due turni. Anche 3 e 9. No, no, ci arrivi in due turni anche 3. Nel senso che vado sperito. Te sei a una piscina di mezzo. Ok. Ah, io sono vicino. Mi ha dato il via lui. Sì. Lui da lei. Lui. Perché mi ha dato un'idea. Che palle è vicino, mi tocca intervenire. Ho voglia. Vabbè, no, lui. Cioè, la piscina di mezzo dalla scena di loro. Lui. Io rispetto a lui. Che fra l'altro ti passa accanto. fammi un tiro di non strapparsi male. No, le mani. No, io di destrezza per riuscire a farlo perché 20! Che 26. 28. Le bestemmie in questo 28. Podcast non sono vere. Sono state aggiunte in post-produzione. Il montaggio. Nessun dio è stato maltrattato durante la registrazione. Per favore. Io sto continuando 28. A guardare la scena. Bello, Iappi! Che cazzo ti faccio? Iappi, vai in culo! No, lui riparte. E te praticamente ti sei in mezzo, ti metti proprio in mezzo davanti a lui. Perché lui all'ultimo, quando non chiappatti, si lancia indietro così e te riesci a praticamente di nuovo a placcarlo. Voglio portare giù a terra, non nel lago. Ok, quindi fai peso morto. Sì, peso morto e si fa giù. Sì, in mezzo ai fammi un tiro di volare. No, state arrivando praticamente alla fine del lago. Cioè, loro sono sulla fine, non lo sanno perché sono dentro. Va bene, io vado, vado verso di loro. lui fa 5. Moscone. Qualcuno gli fa capire questa cosa è snervante, è stancante. Stiamo solo perdendo. Io l'ho portato giù. Ciao! 22 l'ho portato giù. Fammi un tiro di resistenza al dolore per non svenire nell'impatto. 3, 2, 5. 19. Madonna. Lo hai sotto l'acqua e sta facendo ripartire la io cosa. Io ci ho fatto 5. Ok, prendi di 20 danni anche lui. Che ha tipo 6 punti. Basta, ma mi tocca morire così per fare così asco come una pera. No. Come fai a scrivere? Che cazzo fai a scrivere? Sei in volo. Ok, te l'impatto che ho preso la sberla dell'acqua che... Hai tirato di 20 danni? Sì, sì 11. Ok. Va giù. Io sto rigirando. No, vabbè, ti sei ripreso, hai guardato in avanti, hai visto la scena, te in questo... nel prossimo turno arrivi anche te lì. Sì. Buddy, tutto questo è inutile. Sotto l'acqua. Non ho fatto 19. Per non svenire. 19 per non svenire. Sotto l'acqua sono stato fatto partire la sua cosa. Sì, vabbè, può urlarlo comunque. Vedete una cosa che è sopra, voi due. Io. Fatemi un tiro osservare tutti e tre al 10. Cosa osservo? 12. 1. Vabbè, ok. 12. Cazzo, tiro. Io, sembra che sulla 18. Vi sembra che sulla superficie del... Te quando tiri per osservare sempre metà. Sì, sulla superficie della nuvola di gas vi sia un'altra scritta. Ok? che si sta illuminando. E che cazzo. Io in realtà quando sentite ciaff, la scritta boom, si spegne. Allora, sì. Io in realtà ho fatto questo, mi volevo per osservare, mi volevo portare la mano così, ho fatto ah! Che lo faccio. Hai fatto sì, se non so, avevo tutta l'aria di stare volando e quindi ho fatto più. No, ma perché io lo fo di continuo e mi porto tipo così e mi infilo dietro negli occhi, okay, da solo. E quindi ho fatto così, ho fatto ah! Un dito in un occhio. Cazzo! Va a ripescare lei. Va bene, dai, al ok, galleggerà. Tiro di no, di 20 danni perché già sei fatto sotto l'acqua. Ah, no, un altro e poi tenti di riprenderti. Al 10 riesci a recuperarla. Lei c'ha l'ossa cave perché c'ha una tipo 14 galleggia. 14. Te a un certo punto c'è proprio hai presente la scena di Sam e raccatta Frodo? Sì, uguale. Ecco, uguale, solo che c'hanno tutta l'aria attaccata e tutto ciò avviene tipo shu. Tipo sì, ma ero svenuta, ho fatto 5 per resistenza al dolore. E quando hai fatto ora per riprendere? Ora, non riesco, tira. Tira. 12. Ti riprendi 12. Mentre qualcuno ti ha appena lanciato, 12. Perché te hai fatto così. Sì, beh, l'ho rilanciato, esatto. Ma che cazzo senti l'aria? Sì, istintivamente ti sei ripresa. Incredibile. Anche sotto l'acqua, e che cazzo. E hai rotto i coglioni, oh, vai via. Ora c'è il rito. Levati da coglioni. Ah no, ora mi hai rotto il cazzo. Ora mi hai rotto veramente il cazzo. Pa, gli vado dietro e mi porto la mano al revolver. Aspetta. Tutta gente a rompere coglioni. Dimmi quartiere, tutta gente. Vaffanculo. Io ho due domande. No, io ho solo una domanda. Perché? Okay. Vedete il suo canto che ricomincia e si intensifica e sentite di nuovo qualcosa che si illumina sopra di voi e poi sentite. Non è che resta montagna adesso molla. Sembra che sia successo qualcosa, non si capisce bene che cosa. Bene, lo stai tutti inseguendo in un modo o nell'altro, chi se ne frega, aspetta. A un certo punto vedete che lui, davanti a voi vedete delinearsi delle porte, che sembra, avete presente le porte da tempio buddista, sì, enormi, sì, e con i grossi campanacci con, sì, le facce da demone cinese, ok? Mm. Che si sono appena aperte, leggermente, lasciando uno spiraglio minuscolo, lui che ci infila dentro. Nella parete della montagna, davanti a voi, okay. Torna. Sì, sì, sì. Okay. Ci infilo dentro anch'io. Sono alte, come se non ci fosse una decina di metri. Lui ci ha infilato dentro. Fum. Anche lui. Fammi indovinare. Okay. Noi immaginavamo che si richiudevano noi. Bello, va bene. Sì. Succede, ma riuscita ad infilare là dentro. Infilare dentro. E siete praticamente in quella che sembra essere una caverna che sale in questo modo e si restringe, piena di orrende stalattiti appuntite che dovete evitare con un tiro di volo. Non sto capendo un cazzo. Siete entrati in un tunnel, sì, che in sale in un unico tunnel, ogni porta, esatto, conduce allo stesso tunnel. No, c'è una porta e basta. Ah, ok. Un'enorme porta di 10 metri che si è aperta, tipo tempio, quando lui ha fatto sta cosa, cioè infilato dentro, sta salendo lungo questa cosa. Ok. Il tunnel sta così. Sale, sì, così, molto rapidamente, cioè proprio fa. E però è pieno di stalattiti. Puntite, io evito con questo 17 body 19. Esatto, io ho visto quella cosa migliore da fare. 9 col tiro, anche con volo. Spawn, ti pigli una nella spalla, ti pigli di 4 danni. Tieni. Ma che cazzo? Adoro, spuntano dei dadi. Ma che cazzo? Adoro fare perché non rompo. 19. Io mi sa che comincio a fermarmi. Voi, vabbè, te a parte. Io quella cosa migliore è spuntarsi così e avvitarsi verso l'alto, stando il più possibile nel centro, perché le salatite arrivano tutte così. Esatto. Ok. Oh, è tutto molto bello. Immaginate i vostri PG cosa stanno provando. Oh cazzo, nel momento cazzo. Esatto, cioè quel momento in cui tu pensi per 15, mi sto perché, fisciando addosso. Sì, ok, non pensi dall'emozione che avete nel fare questo, che è un misto tra la bellezza che può essere di un volo completamente spericolato, di rischiare la vita e appunto rischiare la vita e avere una paura della Madonna. Probabilmente avete lasciato una serie di sgolate di merda dietro di voi. No, io ho fatto meno 15, mi sto tipo pisciando addosso dalla paura. L'hai già fatto, sono come una bambina. Tutti in tutto questo, riuscite a evitare queste cose. Salite per svariati e lunghi minuti con lui che vi dà davanti. Tra l'altro in questo momento lui è abbracciato alla tavola in questo modo e la sta tenendo, cioè lui, per fare meno superficie, ha sganciato un piede, si è messo in questo modo e la sta tenendo praticamente con le braccia in davanti a lui e sta salendo in questo modo. A un certo punto vedete lui esce, c'è della luce sopra anche voi, uscite e uscite, la luce negli occhi vi acceca per un attimo, riaprite gli occhi e c'è lui, siete sulla cima della montagna che è piana, completamente piana, ci sono degli alberi, dei boschi, delle rocce. Sì, delle rocce. Non è enorme. C'è un grosso tempio che ricorda molto un tempio nepalese o quello che cazzo volete. Lui che scende verso terra, fa una, praticamente una embelata, così chiude la vela, spenge l'affare, corre dentro al tempio. Vedete, ci sono dei monaci che lo vedono, lo salutano tipo in questo modo, e lui chiude, entra dentro al tempio, boom, e si chiudono le porte. E aspetta, ma non sei unica! No, voi in questo momento tipo mosca. No, a parte scherzi, io questo me lo fa scappare. Gli puoi sparare, l'unica cosa che puoi fare è sparargli, perché si è comunque tanto dietro di lui. Lui ha comunque fatto più di 20 nel... Io ho fatto 20. 19-1 di volo, quindi. Va bene, allora gli sei a pelo di culo. Voglio tipo tirarmi su, cioè ovviamente un secondo prima che lui... Chiudo completamente le ali e tiro giù le maniglie per piombare dentro il tempio. Vai, l'ho seguito per mezza giornata. Vai, ma può scappare così. La porta del tempio si aprì. No, sette. Pum. 8. Che tu quando la porta. 4 però magari 20. La porta si 4 di 20 danni. Diavolo si è scantato a 90 km orari contro una porta, no, buono, di un monastero che probabilmente si è sciupata, ma non si è rotto. No, che al primo è 9 danni. 9. Lisbeth, secondo è 6 danni. 15, salvare, prepara. E non si fece troppo male. Il terzo è 4 danni. 19. Ti prego. Sono 19 con 30 e 20. Per la volta la mia sfiga di dati sta tornando utile. Vai, raga, il 20. 19. 19. No, 36 danni. Anche proprio. Perché probabilmente è di metallo. E sfieni senza nessun test. Ma se ti fa 20? Ti sei. Cioè, c'hai la cartilagine del naso e adesso è spiaccicata in questo modo. Un trauma cranico. Cioè, ti sei proprio perché hai fatto più di testa. Cioè, all'ultimo hai fatto tipo sì con le braccia, ti hai spezzato. Ci sono dei fuochi qui intorno? Fittosi. Sono dei grossi bracieri ai lati. Vedete? Aspetta, ma monaci? I monaci sono a terra e stanno Falle di rappare. Io passo vicino a uno dei bracieri. Sbam! Butto in terra. Lo butto in terra. Penso che questo mi possa aiutare, non so perché. È una bella scena. Vabbè. E poi gli atterra proprio sopra così. A lui? A lui. Ah, vai. Ok. Morwen. Morwen, che si è mamma, mi sta spezzando il piede. Cioè... No, però bella, c'è arrivo così proprio. Stampi il bracciale, rovescio in terra. Vola di sotto dalla montagna il bracciale. No, no, lì sui tempio gira, è di metallo e quindi fa questo casino incredibile. Ti staffa la maglietta, scusa. Vai. Dai, anche un più uno perché è bellissimo tutto ciò. Due. Era resistenza 35, prendi il restante e fallisce l'incantesimo. 33, 74, 44, 42. Cioè, hai capito? Cioè, sono due in guerra. Sei sempre in quota io, lì. No, io scendo. Cioè, okay. Anche perché adesso, avendo battuto, avendo veramente poca vita, mi sono reso conto che questa cazzo di cose non sono mie, mi sto ancora incazzando. E questa è entrata e mi ha chiuso davanti. Aspetta un attimo. Come questo mio. È proprio cazzo di adesso c'è la monaci. Questi, no, vedi che sono una razza che tu non hai mai visto. Hanno, sembrano dei Harven. Hanno le piume che gli partono qui e gli fanno i capelli come i più puri della vostra razza. Solo che ce l'hanno bianche. E hanno le ali dietro, tra l'altro. Questi tizi hanno dei bastoni su cui si appoggiano con dei grossi anelli. Tipo Tengu, però bianchi. Sì, esatto. Sì. Delle tonache bianche, anche queste. Sì, vabbè, io sono buoni. E una grossa fascia blu acceso, proprio blu bello, elettrico. Bello blu elettrico, esatto. E... Vabbè, te che fai? Io a terra vado verso di loro, non lo so. Ok, ce ne sono quattro di questi. Uno di loro sta venendo verso voi due. Fa un tiro di linguistica, ma falli. Cioè, fa un tiro. Pensavo io fa un tiro. La vostra lingua. 12. No, vabbè, non sembra aggressivo comunque. Lazare. C'è una voce molto morbida. Mi sono avvicinata lentamente. Aspetta, c'è quello su. Che, anzi, così, scusami. E ti recuperi 23 punti vita. Anzi, scusa, io? Sì, ti ha appoggiato la mano sulla testa e ti ha. Sta curando. Dove c'è il naso qui? Grazie. 23:33. 23:33. Stendi? Io direi sì. Ok. Finiamo un attimo? Stai, finiamo la scena. Vai. Mi rifiglio un po'. Fate. Stanco. Anch'io. Tantissimo. Idioti. Questo è universale. Mi avvicino. Lo piglio. Poi ce l'avete, poi ce l'avete un altro. A te uno ti fa così. Ti dico, aiutami un attimo. Gli atterro accanto. Sì, ti do una mano. Lo appoggiamo schiena a una colonna seduto. Ok. Grazie. Io sono tipo così, li guardo. Te sei molto più piccolo di loro, loro sono molto più alti. Sì, ma sono tipo paralizzato. Vedi, lui ti fa così davanti. Un corretto, cazzo. Benvenuti. Grazie. Cioè, io so più... Ma ormai è andata, perché non capisce che cazzo sono questi. Potrebbero essere, secondo lei, delle divinità della sua stessa razza, non si sa. E tipo così. 13. Recuperi 13 punti vita. Spirito. Lui ha capito che ti deve curare, perché è la cosa che ho capito anche io. No, io gli fo. Vabbè, ormai lo riprendo. Grazie. Disimparavo a parlare, ragazzi. Li sbettavi la bocca. Ah, noi vogliamo entrare. Entrare. Te non sei ancora scesa, ce n'hai uno e si no, sta. No, sto ce l'hai uno davanti anche a te che ti ha fatto no, sì. Oh, mi avvicino e la tocco. Vi riuniscono. Ah, giusto. Qualcuno mi toglie il dardo da... Stompa! Senti, ho un pallino nella spalla. Prendi 3 danni per il sangue che esce. Scusa. Stronza! Ho un pallino nella spalla. Poi ho contato più Maru e ne è andato. Continua a fare dei tiri per parlarmi schifosi, perché questo... posso... Te hai parla... Lingue. Te hai lingue, magari puoi... Fatti, parlate la vostra lingua, gli faccio. Vai. Cerco di capire che cazzo è sta roba. Non l'hai mai sentita e hai 15 tentare di capire una struttura dietro tutto questo, vai. Dai, contestualizzate. 3. Come se io sento parla un per un lato per Manuel questi possono essere divinità. Cioè, potrebbe essere le divinità della sua stessa razza, quindi lei è partita. Terra, com'è? Lei pietra. Ci prova, lastricata, ci sono grosse pietre e vedi che tra l'altro sono, come si dice, sembra ci siano delle vecchie... Vabbè, io mi metto a sedere... Delle vecchie decorazioni su queste pietre, consunte dal tempo. C'è tipo del riccio, scusa? Cioè, nel senso, se io ci passo un dito nel mezzo, sì, viene una rigata... Sì, c'è anche dell'erbetta, c'è un po', anche un po' in rovina sto posto. Bene, faccio il segno di una porta aperta con una freccia che è dentro. Dai, stavano per fare 18, madonna, si è piegato il dado all'ultimo. Vedete, se che ne arriva uno completamente vestito di blu e con la cintura bianca... Io sono il capo di quest'ordine. Chi siete voi che inseguite il mastro di chiavi? Lo tenevano in cantina. Te ti sei ripreso, Body! Bau! Ammazzi il capo dell'ordine e ti ammazzano di botte. Ma senti come lo davvero sì. No, credo pace. Che sia giusta. Non portate. Quest'uomo, quest'elfo è un po' agitato. Ho visto. Che cazzo siete? Stai buono, Agmar! Agmar, prova a toglierti un'ala e ti uccido. Siamo i fratelli albini della vostra compagna. Ci riuniamo in questo eremo. Corvi albini. Per preservare alcune conoscenze. Sentite, non vogliamo farvi nessun male. Dobbiamo solo parlare. Siete mastri di chiavi anche voi? No. Sì, dai, sì. Non avete abbiamo bisogno non avete della dunque chiave. Il diritto siamo persone sì lo capisco ma potrebbe uscire il mastro di chiavi e parlare un attimo con noi se sono le sue orecchie. Che utilità maestro di chiavi che utilità ha una chiave se non le porta una serratura? Beh, suppongo che voi non comprendiate bene ciò che sta accadendo. No, ma questo rituale viene da prima che noi tutti possiamo ricordare. Sta diventando il maestro di chiavi. Sì. Body Akasson, che è il suo cognome. Che fa schifo, ma siamo... Oh, fa okay. Sta diventando il nuovo maestro. Scusi. Ma quanto durerà questo rituale? Perché non ha c'è appena compiuto tempo. La... Seconda. Terza prova. Sì. Si sta approntando alla quarta. Volete seguirlo, visto che anche voi ne avete compiute due su questo cammino così aspro? Senta, è l'unico modo di farsi ascoltare da questo tizio. Io non lo conosco, ma molto spesso i monaci erranti cercano il proprio modo di affrontare queste prove e credo che lui sia concentrato su un'unica cosa, arrivare fino alla fine senza morire. Io lo capisco questo, ma nel mondo ci sono altre cose che vanno avanti oltre al mastro di chiavi. Altre cose... Magari con più... il mastro di chiavi andranno meglio. Sì, appunto. Se lui ci desse una chiave che ci serve per aprire una Non può porta. Darci la chiave finché non diventa maestro. Di che porta parlate? La biblioteca nel tempo. Quelle che lui sta aprendo sono le 8 porte del cuore. Porta del fuoco. Porta... Non è che l'ultima prova lo conduce lì un'altra volta? La porta del, della montagna, la porta del lago. E adesso vi sarà la porta del fulmine. Ok. Ringrazio, cioè il valore al monaco comunque. Ti cura altri... Che madonna, stava per far 20. Ti cura altri 12 e 5, 17 punti vita. Ottima cosa. Sembrano molto magici questi tizi. Scusate, ma... dobbiamo semplicemente aspettare che abbia... Sì, lo fanno. Si fa così con la zampa. Sì, lo fanno, lo fanno. Guarda. Sì, mi sento. Però fanno schifo. Ma bene. Dobbiamo aspettare che abbia finito la prova. Oh, tutte le prove. 17. A te? Sì. Ho capito tutte le prove. E 20! 26 e 5, 31. Te secondo me ti sei inginocchiata un attimo. Sì, anche perché... E vedi che lui ti ha appoggiato il bastone sulla spalla tipo investitura di cavaliere e ti ha fatto tling, tlun, tlun, con la campana stessa e fa tre toni diversi, non si sa come. E ti ha curato. È magica la roba. Vedete, tra l'altro quando fanno ste cose ci sono i fuochi ai lati. Sì, peccato che comunque l'abbia abbattuto. Vabbè, faccio finta di averlo. Beh, non si è spento. Io inizio a guardarmi per cercare cosa è stato modificato. Tiro fuori anche la lingua per vedere se è diventata la lingua di fortuna. Qualcuno riesce a spiegargli perché all'inizio è normale come ce l'hai adesso, solo che poi continua biforcuta, cioè lunga tipo così. Sì, è stato divertentissimo. Qualcuno riesce a spiegare a questi gentilissimi signori io perché... faccio ma fate in nano. Perché hai visto me il nano proprio tutti sì. Allora, guardo la porta, la mia faccia c'era il tempio sulla porta. C'era un tempio qualche secolo fa in questa città, c'è una porta alla biblioteca. Esco. Il tempio dei cavalieri neri. Sì, fu il vecchio mastro di chiavi Osaka Von Kalt. Sì. Che no, Osaka era il maestro. Creò quel sigillo. Noi dobbiamo romperlo. Allievo di Osaka. No, okay. Von Kalt era il cavaliere nero. Io avevo capito l'ex maestro di chiavi che era Osaka. Sì. Maestro di chiave si chiama Osaka, invece Von Kalt era il cavaliere che ha creato. Beh, lui ti ha appena detto che Von Kalt era un mastro di chiave. Cosa? Sì, e che Osaka è il maestro di Von Kalt. Esatto. Quindi tu cuoco Osaka vivi. Quindi Von Kalt e Osaka erano tutti cavalieri neri. No, erano tutti mastri. Erano mastri di chiave. Von Kalt. Ah, il mastro di chiave ha fatto la serratura. E soltanto un mastro di chiave Von Kalt esatto. Forse era anche un cavaliere. Capito. Chi va detto che sia un cavaliere capito. Nero, me lo dite. Capito. Te, hai detto se sono tutti cavalieri neri. No, non sono cavalieri okay, neri. Ok, sono cavalieri. No, sono mastri di chiave. Allora, aspettate, perché io l'ho leggermente cambiato. Perché magari ci sono delle cose. Allora, Von Kalt non è un cavaliere nero. Ah, ok. Ok, va bene. Cioè, Warash non è che vi ha detto, non vi ha detto che lui è un cavaliere nero. Vi ha detto che è suo nemico. Cioè, comunque ha detto bastardo, Von Kalt di merda. Mm-hmm. Merda. Mentre Warash era un cavaliere bianco. No, Warash era un cavaliere nero. Ok, vai, va bene. Warash era un cavaliere nero, ha la spada rossa, tra l'altro. Aspetta, ti do ma era semplicemente quindi dello stesso ordine, il rivale di Von Kalt. Non lo so. Purtroppo forse non ha la sua mia mente. Dobbiamo distruggere quel sigillo. Sì, esatto. Beh, lui li sta aprendo. Ma fa pure il suo master di chiavi, va. Sì, la spada è quella, per forza. La spada è quella per forza. Ma diventiamo noi maestri. Sì, del fene. Sì, dovete avere sta mano. Cosa vi volevo dire? Che brevemente poi vi lascio andare. Sì. Voi dovete aprire quel sigillo. Lui dice, è possibile che possa essere una delle sue prove. Questo non lo sappiamo, dovete seguirlo se volete scoprirlo e se volete condurlo a quella prova lì, perché sappiate che le prove dipendono da colui che le vuole superare. Capisco. Dovremmo sapere le prove prima. dovrete parlare con lui. Okay. Al momento si sta preparando per affrontare il fulmine, uno dei nostri maestri. In cosa consiste? Beh, consiste nel combattere uno dei nostri maestri e batterlo. Facile. Ma fa un po' schifo combattere, credo. Già. Beh, allora forse è il caso di dargli una mano. Anche vero. Se... Beh, devo bussare un'altra volta? Oppure questa porta si può aprire? No, perdonatemi, ma non sapevamo chi foste, non abbiamo... Non ti aspettavamo. Avete ragione voi, mi sono stato preso dalla... Ma a volte... Dalla foca di seguire i modi, scusate. Le vie... Mi ho anche danneggiato. ...del rosso sono impescrutabili. Le vie del rosso? Sì. Le vie dell'antio. Antio, che sei tutti la vestiti. La nostra fede. Dico il rosso... Il nome del nostro dio è Eboa. La bottiglia. C'è tutti quelli di copyright lì. Subito, cioè in modo